Anchor è un'applicazione che ti permette di registrare in modo facile un podcast e distribuirlo. Potrai distribuire il tuo podcast anche su podcast di Apple e su molte altre piattaforme gratis. Ti permette di salvare clip audio con il tuo smartphone, aggiungere la tua musica in sottofondo e inserire effetti sonori e brani. Una volta che hai registrato e aggiunto la musica, sei pronto a distribuire gli episodi del tuo podcast e l'applicazione ti aiuta anche in questo. You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian, on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. Il ritorno di Bodhitaro su Letteralmente Radio Yoga Network. Una volta al mese avremo, un mese sì, un mese no, una trasmissione nuova di Bodhitaro, quindi realizzata dopo il 2020. E un mese sì, un mese no, una trasmissione vecchia, andremo a riascoltare insieme una delle sue vecchie trasmissioni. In ogni caso, tutti i mesi, d'ora in poi, di nuovo su Letteralmente Radio Yoga Network, il ritorno di Bodhitaro, trasmissioni vecchie e nuove a cura del nostro carissimo contadino Zen, come lo chiamo io. Buon ascolto, Letteralmente Radio Yoga Network, nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Vuoi sapere come coltivare o avere info su piante, fiori o in generale sul mondo vegetale? Ascoltaci! Radio Fiori Verdi, una radio Creative Commons. Un grosso ciao da Giulia di Radio Fiori Verdi. Email fiori.verdi.mauro@gmail.com. Oggi parleremo delle piante di ortensia. L'ortensia fa venire in mente un'immagine di grandi fiori colorati, rossi, rosa, azzurri, bianchi che da secoli vivono in maestosi giardini. Si tratta di piante molto antiche, di cui sono state trovate anche tracce, da decine di migliaia di anni fa, e che sono presenti nei giardini ormai dal XVIII secolo, quando alcuni esemplari presero per la prima volta questo nome in onore della principessa Ortense de Nassau. Le ortensie sono di origine asiatica, per lo più giapponese e cinese, altre hanno origine in America. Fiori. Le infiorescenze sono un insieme di piccoli fiori a seconda delle specie e delle varietà. Eccezione fatta per le infiorescenze bianche, tutte le altre risentono dell'acidità del terreno, più basso è il pH, più il colore virerà al blu. Tenuto conto che, per la stragrande maggioranza delle varietà, il colore naturale è il rosa, dovremmo abbassare il pH se vogliamo far sì che la nostra pianta fiorisca di blu. Continuiamo dalla raccolta di Jason, audionautics.com, con il pezzo Allison. Buon ascolto da Giulia di Radio Fiori Verdi. Thank you. Le specie. Arborescens. Questo gruppo, originario dell'America, furono le prime ad essere importate in Europa alla metà del XVIII secolo. Sono piante rustiche che sviluppano da 1,5 a 3 metri, hanno foglie dal margine seghettato e fioriture generose che vanno da giugno fino all'autunno. I fiori sono sferici, bianchi nella maggior parte dei casi. Tollerano esposizioni soleggiate e si adattano anche in zone di mare, non hanno particolari esigenze di terreno e la potatura si effettua a fine inverno-inizio primavera. Fiorendo sui rami dell'anno difficilmente subiscono danni dalle gelate tardive. Aspera. Raggiungono dimensioni notevoli e tutte producono infiorescenze piatte, blu al centro e bianco-rosato intorno. Eteromalla. Particolarmente resistente al freddo, l'eteromalla ha foglie vellutate che virano al rosso-bruno, infiorescenze bianco-crema. Le varietà raggiungono anche i 7 metri di altezza. Involucrata. Le sue dimensioni contenute la rendono adatta anche a giardini di piccole dimensioni e dalla coltivazione in vaso. Piuttosto resistente al freddo dato che vive fino a 1500 metri di altitudine, deve il suo nome all'involucro che racchiude il fiore. La fioritura è tardiva, da agosto in poi, e molto duratura. Petiolaris. Bellissimo rampicante con fogliame lucido ed infiorescenze color bianco crema, è resistente al freddo ed estremamente adattabile. Non ha esigenza di terreno particolari e sopporta anche l'ombra totale. Schizofragma. Dopo la Petiolaris, sicuramente l'ortensia rampicante più conosciuta. Il fogliame meno lucido, la forma della foglia più arrotondata, i fiori con i sepali dalla forma a plettro, la rendono una pianta estremamente elegante. Seemanni. L'ortensia dalla foglia di lauro. Si tratta di un rampicante molto particolare per la forma delle foglie, lucide, consistenti, foltissime. L'infiorescenza è bianca, non tollera le basse temperature, infatti è opportuno collocarla in posizioni riparate. Dicroa. Originaria della Birmania, è una pianta robusta che supera i 2 metri di altezza. Nei suoi luoghi d'origine ha una fioritura pressoché continua, blu o rosa a seconda del pH. Tanti piccoli fiorellini che si aprono a stella. In posizione riparata sopporta anche le basse temperature. Serrata. Questa specie comprende numerose varietà, tutte caratterizzate da uno sviluppo abbastanza contenuto. Infatti non superano i 150 cm di altezza. Hanno una fioritura duratura che si protrae per tutta l'estate ed in autunno il fogliame assume sfumature brune. È il momento di ascoltare dalla raccolta di Jason il brano Fiorelise. Buon ascolto da Giulia di Radio Fioriverdi. Arcifoglia. Appartengono a questa specie, originaria degli Stati Uniti, numerose varietà. La forma delle loro foglie ricorda quella della foglia di quercia. Raggiungono uno sviluppo medio intorno ai 2 metri. Paniculata. Di origine asiatica, la paniculata è un'ortensia estremamente rustica che ben si adatta ad esposizioni soleggiate, ma anche a climi rigidi. In condizioni ottimali può raggiungere dimensioni notevoli, oltre i 4 metri. Entra in vegetazione tardi e questo la protegge da eventuali gelate tardive. Fiorendo sulla vegetazione dell'anno, ci consente di potarla anche in tardo inverno, quando possiamo cogliere l'occasione per dare una potatura, nel togliere tralci secchi o non vigorosi alla base della pianta. Esistono varietà con infiorescenze rosa, ma anche quelle bianche, protraendosi fino all'autunno, vanno ad assumere una calda tonalità rosata. La paniculata non risente del pH del terreno. Macrofilla. Ed eccoci alle più note ortensie da giardino, le più amate, le più diffuse e sicuramente le più colorate. Ci troviamo davanti ad un numero incredibile di varietà e accanto alle ortensie antiche si stanno affiancando negli ultimi anni le cosiddette moderne, vere e proprie collezioni nate per rispondere sempre meglio alle richieste del mercato. La macrofilla ha foglie lucide, ampie, di un bel verde brillante, dal margine liscio o seghettato. Esiste un gruppo di ortensie a foglia variegata. Di bianco e giallo, solo di giallo, tutte a fioritura bianca. Insomma, non si ha che l'imbarazzo della scelta, e dato che ci troviamo davanti a piante con una rusticità medio-alta, per poterne godere appieno la bellezza, dobbiamo seguire poche semplici regole. Coltivazione. Le ortensie possono essere coltivate in piena terra, come in vaso, almeno fino a che le dimensioni raggiunte ci consentano spostamento e rinvaso. La coltivazione in contenitore può essere vantaggiosa per le specie e varietà che necessitano riparo in inverno, temendo le basse temperature. La coltivazione in piena terra, a meno che la pianta non sia stata appena messa a dimora, è meno impegnativa, soprattutto dal punto di vista dell'esigenza idrica. In entrambe le situazioni per il benessere delle ortensie, le innaffiature devono essere generose, ma si deve fare attenzione ai ristagni idrici che rovinano le radici. Usiamo un terriccio sciolto sia per la coltivazione in vaso che per ovviare un terreno troppo compatto o argilloso in giardino. E ora è il momento di una pausa musicale con il brano Amazing Grace dalla raccolta di Jason, audionautics.com. Buon ascolto da Giulia di Radio Fioriverdi. Oh! Concimazione. La concimazione deve avvenire a fine inverno, in modo che la pianta durante la vegetazione e la fioritura trovi un terreno fertile ed arricchito. I fertilizzanti chimici tendono ad abbassare il pH del terreno, per cui il colore rosa potrebbe assumere una leggera sfumatura malva. Se si vuole ottenere un bel blu, da febbraio a fine marzo, è opportuno usare solfato di alluminio a distanza di 20 giorni circa per 3 volte. Così che la pianta nel periodo vegetativo tragga dal terreno la sostanza che le permetterà di fiorire di blu. L'ortensia in genere tollera esposizioni soleggiate, non teme il freddo e le gelate tardive. Il suo fabbisogno idrico è modesto, non deve essere potata in inverno perché i fiori nascono sulla vegetazione dell'anno precedente, quindi eventuali potature correttive devono essere effettuate subito dopo la fioritura. In alcuni casi, seguendo i consigli del vivaista, è invece utile l'utilizzazione di altri concimi chimici per rafforzare il colore dei fiori. Il trattamento per il colore e la concimazione devono essere ripetuti ogni anno, perché le frequenti ed abbondanti innaffiature dilavano il terreno impoverendolo. Ovviamente, se la nostra macrofilla è bianca, il pH non sarà rilevante. Potatura. La potatura è forse l'aspetto più delicato nell'argomento ortensie, dato che se eseguita correttamente favorirà una maggior fioritura. Le macrofilla fioriscono sul legno dell'anno precedente, quindi sarà opportuno potarle prima dell'autunno, così che possano emettere nuovi getti, indurendoli a sufficienza perché le prime gelate non li trovino troppo teneri. Accorciamo i rami di qualche nodo, avendo cura di non scendere mai nella parte legnosa, a meno che in caso di piante vecchie non si renda opportuno. Non tutti gli anni, ovviamente, si proceda a rimuovere alcuni rami centrali, in modo da aerare l'interno della pianta. Questo renderà la pianta meno passibile di attacchi da parte di muffe e funghi. Avversità. Più una pianta è sana e ben curata, minori sono le probabilità che venga attaccata da parassiti e funghi. Purtroppo, quando si hanno forti escursioni termiche, è facile trovare sulle foglie macchie rotonde rossastre. Si tratta di muffe che si sviluppano a causa dei picchi di calore. In questo caso è opportuno trattare la pianta con composti rameici, che oltre ad avere un'azione disinfettante, induriscono la pianta, rinforzando la vegetazione. Molto frequente la clorosi, l'ingiallimento delle foglie, cui possiamo porre rimedio mettendo alla base delle piante composti a base di ferro. Rarissimi gli attacchi di parassiti che rendono necessario l'uso di antiparassitari per aspersione o sistemici. Quasi tutte le ortensie sono da considerarsi tossiche, ad eccezione delle varietà amaca, conosciute come le ortensie da tè. Limitiamoci quindi a farne un utilizzo ornamentale e continuiamo a goderne la bellezza essiccandone le infiorescenze. Appese in luogo quasi buio e molto aerato, i fiori si essiccheranno mantenendo la forma e il colore. Un saluto da Radio Fiori Verdi, da parte di Giulia e Mauro. Ed ora, il brano Away Manager. Buon ascolto! Thank you. Vi lasciamo con un pezzo folk, il brano Acoustic Shuffle. Un sorriso a tutti da Giulia, di Radio Fioriverdi. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buongiorno, benvenuti care e carissime nel Signore, nella stanza delle letture casalinghe. Oggi è sabato e continuiamo questa meravigliosa lettura del Vangelo di Gesù secondo Paramahansa Yogananda. Stiamo arrivati al volume secondo, alla pagina 341. Quindi abbiamo finito il primo volume, stiamo leggendo il secondo e poi andremo, una volta finito questo, andremo a leggere il terzo. Quindi per gli appassionati di questa stanza delle letture casalinghe, insomma, ne avremo ancora per un po'. Ovviamente spero che questo sia di vostro gradimento. Come sapete, io porto avanti adesso la lettura in due stanze definite, ben definite, e cioè questa è la lettura, è la stanza delle letture casalinghe, dove qui leggeremo molti testi che fanno riferimento, come già ho detto in qualche altro video alla figura del Cristo, e nell'altra stanza, nella lettura, nella stanza delle letture spirituali speciali, faremo riferimento a quella invece che è la figura di Krishna, quindi due parti ben distinte, ma poi insomma nelle letture vedremo che nello svolgimento di queste letture ci renderemo conto che poi in fondo non sono così distinte. E ieri proprio ho comprato un altro testo che leggeremo in questa stanza, e non so se lo leggeremo subito o dopo questo o più in là, vedremo insomma quello che succederà. E ho preso un testo autografo di una santa, Santa Teresa di Lisieux, e la santa del Gesù bambino, e perché ho trovato proprio un testo dove appunto è lei che parla, perché come state vedendo, io preferisco leggere in questa stanza quella che è la voce diretta di questi santi, non quello che è stato scritto su di loro, non un saggio, ma proprio le letture. Per esempio, questo è proprio quello che Yogananda Paramahansa scrive lui. Cioè non è che noi stiamo leggendo un saggio critico, ma stiamo leggendo proprio dalla voce della persona in questione. Quindi le nostre letture in questa stanza, il nostro scopo è proprio dare voce a queste sante personalità. Sarà una ricerca difficile perché proprio come mi hanno detto ieri in questa libreria, scritti autografi dei santi non è che ce ne siano molti, però noi cercheremo di scavarne qualcuno e comunque leggeremo quelli che sono a nostra disposizione. Allora andiamo avanti. Periodo di 3 giorni e 3 notti. Questo periodo di 3 giorni e 3 notti vissuto nel corpo sono chiaramente significativi, in quanto dopo aver abbandonato il corpo fisico, generalmente grandi maestri impiegano 3 giorni e 3 notti per superare il karma sattvico, rajasico e tamasico. Quindi sattvico significa il karma nella virtù, nel senso il karma delle buone azioni. Rajasico è il karma delle azioni fatte con passione, quindi molto dove l'anima della persona viene molto molto coinvolta, no? E tamasico invece è il karma della persona che fa delle azioni in ignoranza. Per esempio, una delle azioni in ignoranza che noi consideriamo, io e tutta la mia tradizione alla quale io appartengo, perché lo sapete che insomma io faccio queste letture, ma io sono stata preparata da un punto di vista spirituale, ho fatto le scuole chiaramente cattoliche, quindi ovviamente l'impostazione è quella, però poi tutte nelle mie ricerche io mi sono molto dedicata a quella che poi è la cultura vedica, quindi e poi non vedica in assoluto, perché cultura vedica è amplissima, ma io mi sono formata in quella che è la cultura vedica del Gaudiya Vaishnavismo, che è una branca che racchiude tutta la cultura vedica, però è una branca a sé. E infatti lui lo definisce appunto il karma buono, il karma attivante e il karma cattivo. Vedete, lui dà altri tre, aggettivi, no? A questo karma. Io lo chiamo virtù, passione, ignoranza, e lui lo chiama il karma buono, il karma attivante e il karma cattivo, che invade i tre corpi dell'uomo, i corpi causale, astrale e fisico. Dopo la morte, l'anima lascia il corpo fisico, composto di 16 elementi fisici, ma rimane ancora rinchiusa nel corpo astrale di 19 elementi sottili e nel corpo causale di 35 idee. Le tre qualità, buona, cattiva e attivante, rimangono radicate nei corpi astrale e causale dell'individuo fisicamente morto. Il karma fisico o i semi delle azioni con le tre qualità rimane celato nei due corpi astrale e causale. Ci vogliono tre distinti sforzi e tre distinti periodi di tempo per distruggere le buone, cattive e attivanti qualità che rimangono sottilmente alloggiate nei corpi astrale e causale dopo la morte. Quindi ecco perché sono richiesti 3 giorni, no, di tempo. Allora, ci vogliono tre distinti sforzi e tre distinti periodi di tempo per distruggere le buone, cattive e attivanti qualità che rimangono sottilmente alloggiate nei corpi astrale e causale dopo la morte. Ecco perché quando apparve dapprima a Maria Maddalena, Gesù le disse: "Non sono ancora asceso", cioè la sua anima non aveva finito di esaurire tutte le tre qualità presenti nei corpi astrale e causale, così da poter lasciare le loro limitazioni e divenire uno con lo spirito, libero e onnipotente come lui. Come Dio, con una creazione speciale, ha creato i primi Adamo ed Eva, allo stesso modo i grandi maestri, dopo che si innalzano sopra le limitazioni dei tre corpi, possono ricreare il corpo che avevano in un'incarnazione passata, oppure possono ricomporre i corpi già seppelliti nei sepolcri, come fu il caso del corpo di Gesù. Gesù disse che il più grande segno e miracolo di tutti i tempi sarebbe stato dimostrato nella sua risurrezione, non per soddisfare la curiosità della gente che voleva i miracoli, ma per risvegliare la fede e dare coraggio e speranza a coloro che vogliono sforzarsi a guadagnare con la meditazione il regno di Dio. La risurrezione di Gesù avrebbe provato al mondo che il corpo e l'anima, essendo entrambe riflessioni dello spirito immortale, sono anch'essi immortali. Non solo Gesù aveva il potere di ritirare la forza vitale dal corpo, come nell'animazione sospesa, o di ritirare completamente l'anima e la forza vitale del corpo come nella morte, ma aveva il potere di rimodellare il suo corpo crocifisso e rendere anch'esso immortale, proprio come può fare Dio. Allora, Gesù può essere visto, se Gesù è immortale con tutto il corpo, perché noi non lo vediamo? Tutti i veri devoti possono vedere Gesù Cristo. Egli apparve ai suoi discepoli per 40 giorni. San Francesco d'Assisi lo vedeva tutte le notti. Gesù parla sempre del suo corpo come del figlio dell'uomo o di un corpo imparentato con una generazione di esseri umani o con un albero genealogico. Certamente il figlio di Dio che era rinchiuso nel corpo di Gesù, ma era anche onnipresente, non poteva essere sepolto 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Fu il corpo fisico di Gesù che poté essere sepolto 3 giorni e 3 notti e la sua resurrezione dopo 3 giorni avrebbe provato all'umanità l'onnipotente potere di Dio, che poteva rendere immortale anche un corpo fisico. Non ha importanza se Gesù abbia realmente lo stesso corpo, poiché egli può materializzare o smaterializzare lo stesso corpo o un altro corpo simile. Avendo ottenuto l'immortalità, Gesù Cristo sapeva quante volte si era reincarnato sulla terra, fin da quando si era staccato dapprima dal petto del Padre e poteva materializzarsi davanti a un devoto esattamente com'era Gesù Cristo o in qualsiasi altra forma delle sue precedenti incarnazioni. Quelli di Ninive s'alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, poiché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è ben di più di Giona. La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, poiché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è ben più di Salomone. Matteo capitolo 12, dal verso 41 al 42. Le anime degli uomini comuni e dei maestri sono potenzialmente le stesse, poiché sono tutte perfette immagini di Dio. La differenza tra Salomone, Giona e Gesù consisteva nel fatto che, sebbene le loro anime avessero potenzialmente lo stesso merito, tuttavia la loro manifestazione delle qualità spirituali era differente. Salomone e Giona. Gesù Cristo aveva pienamente manifestato tutte le qualità dell'anima e dello spirito nella propria coscienza, mentre Salomone e Giona non erano stati in grado di farlo perfettamente nel corso della loro vita. In altre parole, Gesù Cristo non avrebbe dovuto reincarnarsi per riacquistare la perfezione della propria anima, perché aveva esaurito tutto il suo karma nel corso di parecchie incarnazioni precedenti e durante la sua vita come Gesù, quando vinse le tentazioni di Satana e durante i 3 giorni dopo la morte. Secondo le parole di Gesù Cristo, Salomone e Giona furono inferiori a lui nel manifestare la perfezione delle loro anime, perciò dovevano reincarnarsi prima di raggiungere la loro completa salvezza. Per questo San Giovanni aveva detto altrove: colui che vincerà non andrà più fuori. E in altre parole, l'anima che in una vita si libera di tutti i desideri materiali non dovrà reincarnarsi, e anche se si reincarna e muore per aiutare l'umanità, secondo la volontà di Dio, essa non subirà la comune morte dolorosa degli esseri umani. Cioè, essa potrà smaterializzare il proprio corpo o staccare coscientemente la forza vitale e la coscienza dal proprio corpo senza venire sottoposta all'incoscienza o alla sofferenza fisica o mentale. Evidentemente Salomone e Giona, essendo inferiori in autorealizzazione a Gesù, dovevano rinascere di nuovo per esaurire il loro karma e ottenere la perfezione totale. Inoltre bisogna ricordare che anime come Giona e Salomone, anche se non avevano raggiunto la perfezione totale, potevano lasciare coscientemente i loro corpi senza provare dolore fisico, ma forse con un po' d'attaccamento mentale. Onore dovuto ai genitori e onore dovuto a Dio. E chi ha sarà, a chi ha sarà dato. La legge dell'abbondanza. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: tornerò nella mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa. Questo è un passo molto duro del libro di Matteo, al capitolo 12, dal verso 43 al 45. Vediamo come Yogananda lo spiega. Qui Gesù si riferisce a quelle anime tra la gente del suo tempo che erano abbastanza avanzate nell'evoluzione spirituale e avevano contattato lo Spirito Santo, rimosso alcuni dei loro difetti spirituali e scacciato il demone interiore dell'attaccamento ai sensi. Ma Gesù disse che malgrado essi avessero scacciato il demone dell'attaccamento materiale, la loro attitudine verso di lui, di non riconoscere lo spirito in lui, non solo avrebbe riportato indietro la loro coscienza materiale, ma avrebbe riportato più grandi demoni di ignoranza, attaccamento ai sensi, orgoglio, presunzione, indifferenza spirituale e mancanza d'apprezzamento e di giudizio spirituale attraverso il quale avrebbero potuto trasformarsi spiritualmente con l'aiuto di Gesù. Gesù dice: «O uomini di questa generazione, il vostro temporaneo sviluppo spirituale vi ha reso presuntuosi e stagnanti, e così non state approfittando della grandissima occasione di redimere le vostre anime per mezzo della profonda manifestazione spirituale che è in me. Ecco perché adesso soffrirete di un'ignoranza più grande di quella che avete prima». L'uomo è un agente libero. È chiaramente evidente che qui Gesù mette in rilievo che l'uomo è un agente libero e che, apprezzando e contattando i più grandi maestri, egli può evolversi, mentre con l'indifferenza spirituale verso i maestri e i loro insegnamenti rimane ignorante, come sempre, oppure facendosi restringere la mente da qualche forma di chiesismo. Può immaginare di essere autosufficiente ignorando gli insegnamenti datori di salvezza dei grandi maestri. Mentre parlava ancora la folla, sua madre e i suoi fratelli che stavano fuori in disparte cercavano di parlargli e qualcuno gli disse: «Ecco, là fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre ed i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre». Questo è un punto veramente importante e lo trovate in Matteo, sempre nel libro di Matteo, al capitolo 12, dal verso 46 al verso 50. Quando Gesù disse: «Chi è mia madre?», egli non voleva insegnare ai figli la mancanza di rispetto verso le madri o i fratelli, ma voleva dire che la gente non deve accentuare le proprie relazioni familiari o amarle più di Dio, poiché Dio è il datore di tutte le persone che amiamo. Se amiamo ardentemente madri e fratelli per la loro amabile natura, quanto più dovremmo amare Dio che saggiamente sceglie per noi madri e fratelli amorosi invece di persone crudeli. Mentre amiamo le nostre madri e i nostri fratelli, non dobbiamo dimenticare il nostro Padre Celeste, che di fatto è il nostro Padre Eterno nel passato, nel presente e nel futuro, e che nel corso di innumerevoli incarnazioni si prende cura di noi, con l'aiuto di molte madri e fratelli. In effetti, quelli che adorano le loro relazioni familiari, dimenticando completamente Dio, dovranno essere disillusi al momento della morte, quando verranno separati da tutti i legami familiari. È il legame con Dio, sebbene non manifestatamente visibile, che è permanente. Dio è il solo e vero congiunto. Ecco la parola congiunto che è stata usata in questo periodo, no, di lockdown, quando il presidente Conte ci ha permesso di appunto fare visita solamente ai congiunti. Ma chi sono i congiunti, i veri congiunti? Solo i congiunti che abbiamo, con i quali abbiamo un legame di sangue? Punto interrogativo. Riflettete, se morite nella vostra casa e rinascete nuovamente nella famiglia della porta accanto, se vi capita di andare nella casa appresso, la vostra vecchia casa dell'ultima esistenza, allora l'amatissima famiglia della vostra vita passata vi tratterà come un estraneo. Perciò è chiaramente evidente che è solamente Dio che, installando istinti d'affetto nella madre, si prende direttamente cura del bambino attraverso l'affetto, il suo affetto. Gesù realizzò questa verità e volle sottolineare nelle menti delle moltitudini che soltanto Dio, che egli percepiva dappertutto, era il suo vero e solo congiunto, dietro tutti i parenti visibili. Ed egli non poteva considerare come padre nessun altro eccetto il Padre Celeste, e chiunque vivesse in sintonia con Dio, egli lo considerava come parente divino, come madre, fratello o sorella. Non solo Gesù riconobbe la paternità di Dio e la fratellanza degli uomini, ma fece notare che coloro che erano coscientemente in sintonia con Dio e lo sentivano erano realmente suoi fratelli divini. Tutti i devoti che sentono Dio come loro padre comune sono uniti nella corda della vera e permanente fratellanza divina. Onora i tuoi genitori. Gesù aveva detto altrove: Dio comandò dicendo: onora tuo padre e tua madre, sempre in Matteo 15 al verso 4. Perciò in questa occasione egli non insegnò la mancanza di rispetto ai genitori. Tuttavia, mentre ognuno deve onorare suo padre e sua madre, non deve essere talmente attaccato a loro che se essi bestemmiano deliberatamente e gli chiedono di desistere dal seguire il sentiero della rinuncia o della meditazione su Dio, egli deve ubbidire loro e abbandonare Dio. No, Dio deve venire prima di ogni desiderio e prima di tutto. L'impegno con Dio nella meditazione deve essere considerato prima di tutto, poiché nessuno può avere un altro impegno nella vita se non riceve il cervello, l'energia e il potere mentale e muscolare da Dio. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al lago. Si cominciò a raccogliere intorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e vi si pose a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di tante cose in parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. e mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in un luogo sassoso dove non c'era molta terra. Subito germogliò poiché il terreno non era profondo, ma spuntando il sole venne bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e lo soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchie da intendere, intenda. Questo lo trovate in Matteo capitolo 13 dal verso 1 al 9. Nella suddetta famosa spiegazione del seminatore, del seme e del terreno, Gesù illustra i diversi tipi di aspiranti spirituali che spargono i semi della spiritualità sul suolo dei differenti tipi di fede e ricettività. Questa parabola si applica anche alla coltivazione delle buone o cattive abitudini da parte dei diversi tipi di persone. Sul terreno recettivo o pietroso delle loro menti. Diverse qualità di terreno. Gesù dice: ascoltate attentamente la verità nella seguente parabola, osservate con saggezza e attenzione che qui ci sono insegnamenti nei diversi livelli delle loro menti ricettive. Ci sono alcuni seminatori o aspiranti spirituali che hanno ricevuto dei semi dei miei insegnamenti, ma siccome erano soltanto dei cercatori di curiosità, quei semi o insegnamenti caddero lungo la strada della loro indifferenza spirituale e i semi spirituali delle esperienze intuitive furono calpestati dagli animali e dalle abitudini materiali. E gli uccelli del cielo o i dubbi che volano nell'atmosfera della mente divorarono quei semi di spiritualità sparsi nelle loro menti non ricettive ma spiritualmente curiose. Infatti noi dobbiamo pregare sempre il Signore che ci tolga il sentimento del dubbio, perché essendo circondati da tutto ciò che non rappresenta la realtà divina, siamo costantemente attaccati dai dubbi e noi dobbiamo molto pregare il Signore che ci tolga questo, perché questo è molto considerato, è molto trattato, no? Anche nella Bibbia, infatti dice: gli uccelli del cielo o i dubbi che volano nell'atmosfera della mente, perché sempre nella mente, divorarono quei semi di spiritualità sparsi nelle loro menti non ricettive ma spiritualmente curiose. Quindi c'è la buona intenzione, però purtroppo bisogna pregare per togliere questi semi che non che verranno appunto mangiati dagli animali. Alcuni semi dei miei insegnamenti di verità caddono sulle menti materialmente rozze che avevano soltanto un apprezzamento e una percezione spirituale superficiale. In queste persone gli insegnamenti spirituali germogliarono in alcune brevi e superficiali esperienze spirituali e quando spuntò il sole quelle quotidiane abitudini materiali, quelle esperienze spirituali di breve durata furono bruciate, poiché quelle esperienze spirituali non diventarono delle abitudini profondamente radicate nell'anima, esse appassirono per mancanza di nutrimento dato da nuovi atti spirituali di meditazione e sforzo spirituale. Le brevi esperienze spirituali delle persone materialiste si estinsero per mancanza di concime, della continua devozione e aspirazione spirituale. Dobbiamo costantemente lavorare per Cristo, per Dio, dobbiamo sempre, sempre lavorare, trovare qualsiasi pretesto per stare in contatto con la divinità. Questo è molto importante, altrimenti si brucia tutto al sole. Alcuni semi dei miei insegnamenti furono seminati sul terreno mentale di persone piene di spine, sempre crescenti nella diffidenza spirituale dei dubbi teologici, e così, malgrado i miei insegnamenti germogliarono in qualche modo in queste menti teologicamente inquisitive, tuttavia quelle ispirazioni spirituali non poterono crescere, ma vennero soffocate dalle spine, sempre crescenti e irresistibilmente predominanti dei dubbi teologici. Perciò queste piante di ispirazione non diedero i frutti della saggezza divina e del contatto con Dio. E altri semi dei miei insegnamenti caddero sul terreno delle mentalità arate e solcate dalla ricettività, annaffiate dalle continue virtù e dal regolare e profondo sforzo spirituale nella meditazione, e circondati dalle buone compagnie. Questa è una cosa importantissima, le buone compagnie, affinché gli animali dei dubbi e delle menti materiali non potessero invadere e distruggere il giardino della mente recettiva, il giardino pieno di fiori profumati. In queste menti protette dalle nobili compagnie, vedete, anche lui insiste molto su questo, dalle nobili compagnie, i semi dei miei insegnamenti annaffiati dalla meditazione giornaliera si svilupparono in grandi alberi di autorealizzazione. Questi alberi umani d'autorealizzazione, forti e vigorosi, poterono resistere agli assalti delle mentalità animali e continuarono a crescere finché non produssero sempre più i frutti della saggezza, della beatitudine divina e della realizzazione divina, in quantità sempre maggiore. Alcune persone spirituali svilupparono in loro 30, 60 o 100 e più qualità spirituali. E concludiamo con questo altro piccolo paragrafo dove dice appunto: la vera arte di intendere. Vedete, come ho sempre detto, no? Anche io che sono stata un'artista, che sono un'artista perché mi dedico molto all'arte, l'arte per me è stata una grande fonte di ispirazione, di contatto proprio con attraverso l'arte io ho sentito questa grande energia, questa grande forza che c'è nella spiritualità, nello spirito, e quindi l'arte è anche questa, anche la spiritualità, anche nella spiritualità ci vuole arte. Infatti la vera arte è questa di intendere, che significa: con chi ha orecchie da intendere intenda. Gesù voleva dire: chi ha orecchie ricettive spirituali per intendere ciò che dico, allora apprezzi la verità delle mie parole e le applichi nella vita per la completa liberazione spirituale. La gente non deve ascoltare casualmente gli insegnamenti di Cristo o prestar loro solo una parca attenzione, ma deve essere zelante, deve essere diligente come uno sposo e conoscere l'arte di far crescere le piante spirituali dell'autorealizzazione mediante la giusta tecnica della meditazione, della vita morale e spirituale, finché producano i frutti della saggezza divina, della beatitudine divina e della completa liberazione spirituale dalle reincarnazioni e dai desideri umani. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, mentre a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono e pur udendo non odono e non comprendono. Matteo 13, 10, 13. Quando i discepoli chiesero a Gesù perché insegnasse loro in parabole con sottili illustrazioni, egli rispose: perché è ordinato che voi siete i miei veri discepoli, che vivete e disciplinate le vostre vite secondo i miei insegnamenti, e in virtù delle vostre meditazioni meritate di comprendere la verità circa la realizzazione della coscienza cosmica o del Padre Celeste nascosta dietro l'illusione cosmica. Ma le persone comuni, a causa dell'estrema piccolezza della coppa della loro ricettività, non sono in grado di contendere le acque oceaniche della saggezza, anche quando queste onde vengono mandate loro. Certo, ovviamente dipende appunto dalla capacità, no, di riuscire ad accogliere nella nostra vita quelli che sono gli insegnamenti spirituali, ma noi della mia tradizione pensiamo che per tutti c'è speranza e che prima o poi tutti quanti ritorneremo a vivere con il Signore nel Regno dei Cieli. E oggi vi lascio prima perché ho un impegno importante da fare questa mattina, devo portare un mio amico in ospedale e vi auguro una buona giornata e ci rivediamo al prossimo incontro per continuare questa meravigliosa lettura. Arrivederci. Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Il mondo di Sophia Meyel. Buon ascolto in esclusiva su Letteralmente Radio Yoga Network con Nadia Mirasoli. Allora, dopo ieri mi sono calmata, ho preso le gocce perché sono sempre Sofia Meglia la Papessa, mi trovate su YouTube Sofia la Papessa. Ringrazio questa radio che mi dà la possibilità di dare voce a tutto quello che è il mondo femminile, che è la delicatezza e la bellezza. E sì, perché sinceramente ieri ero un po' così, perché il discorso di multare i brutti e le brutte è importante, perché così almeno non danno fastidio alla visuale di chi, cioè di chi li guarda. E quindi, insomma, perché non è che io posso impiegarci mezz'ora della mia giornata al mattino appena mi sveglio a pensare cosa mettermi e truccarmi, quando invece poi vedo gente orrenda che esce così. Vabbè, non voglio ripetermi sul discorso di ieri. Comunque, non lo so, io adesso vedo tutti questi ragazzi che hanno le barbe, ovviamente, cari maschiacci, non fatevi insomma infinocchiare dal fattore che la barba faccia più virile o cavoli vari. La barba va curata e non questi barboni enormi, anche perché a noi donne poi piacerebbe, non so, ci piace anche la barbetta, ma farvi solletichino e toccare e sentire un po' le mascelle, non immaginare che siete dei capretti, dei capretti, che poi voglio dire, insomma, quindi secondo me non eccessiva. È molto bella perché è un po' dandy, un po' retro e ci piace, però chi vuole la barba, ricordate che va curata. Non tenetela così per l'anima del cavolo, perché di capre e di caproni ce ne sono già tanti. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può scrivermi ai seguenti indirizzi: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia. Oppure inviare una email a radionotizie@hotmail.com. Oggi vorrei parlarvi della stazione UVB76. Conosciuta anche come The Buzzer, che è il soprannome dato dai radioamatori ed ascoltatori di onde corte ad una misteriosa radio stazione sovietica, che abitualmente trasmette un breve e monotono ronzio ripetuto 25 volte senza sosta al minuto, in alcune saltuarie occasioni. Il suono si interrompe lasciando il posto a messaggi vocali cifrati in russo. Le trasmissioni sembrano essere iniziate nel 1973. La stazione è soprannominata dai radioascoltatori di tutto il mondo The Buzzer, in particolare quelli russo sono soliti chiamarmi Zuzaika, ovvero brusio. Il nome ufficiale della stazione è sconosciuto, sebbene i messaggi vocali trasmessi abbiano fatto intuire un possibile call sign, fino a settembre 2010 la stazione introduceva tutti i propri messaggi con l'identificativo UVB76. Anche se è probabile l'identificativo corretto potesse essere UZB76. E che la Z fosse in realtà stata erroneamente interpretata come una V. Da settembre 2010 il sito di trasmissioni è stato spostato ed il nominativo da quel momento utilizzato all'interno dei messaggi vocali è stato MDZHB, pronunciato Mikhail Dmitri Zenia Boris. Dalla fine del 2015 viene utilizzato un nuovo call sign, ossia ZHUOS, pronunciato Zenia Uliana Olga Zinaida. Le trasmissioni avvengono in AM e in modulazione a banda laterale singola, USB. Sulla frequenza di 4625 e dal 2015 anche 6998. Il suono trasmesso consiste in un ronzio simile a quello di un sonaro, dalla durata di 1,2 secondi, con pause di 1,3 secondi circa, ripetuto dalle 21 alle 34 volte al minuto. Fino al novembre 2010 ogni ronzio aveva una durata minore di circa 0,8 secondi. In alcune rare occasioni il ronzio si interrompe e cede il posto a brevi messaggi vocali. Questi messaggi sono trasmessi in russo e vengono pronunciati da una voce maschile e seguono uno schema pressoché sempre uguale e comprendono solitamente sequenze di numeri e nomi propri di persone. Il 5 giugno del 2010 l'UVB76 interruppe le trasmissioni e per circa 24 ore vi fu un silenzio. Il ronzio ricominciò ad essere trasmesso nella mattina del 6 giugno alle 13.35 UTC. Del 25 agosto 2010 fu trasmesso un messaggio. Due giorni dopo il suono si interruppe nuovamente e si udirono alcuni rumori di sottofondo, come se un microfono fosse stato lasciato inavvertitamente acceso. Lo stesso giorno il ronzio ripartì, accompagnato questa volta da voci di sottofondo, con un messaggio vocale. Il 17 ottobre del 2016 il Buzzer trasmise più di 18 messaggi diversi in meno di 24 ore. Sono stati frequentemente ascoltati altri suoni di sottofondo oltre al ronzio, facendo quindi presumere che il rumore non sia emesso direttamente da una trasmittente, ma venga prodotto da un dispositivo posto vicino ad un microfono costantemente acceso. È anche possibile che in passato il microfono in questione sia stato attivato involontariamente, quando non necessario. In una di queste occasioni, precisamente il 3 novembre 2001, furono udite delle frasi in russo. Alle 22.25 UTC, dal 1 settembre 2010, il ronzio si interruppe e venne trasmesso un brano di musica classica, della durata di 38 secondi, estratto dalla famosa opera del Lago dei Cigni del compositore Tchaikovsky. Quattro giorni dopo, il 5 settembre alle ore 12.30 UTC, che qua in Italia sono le 13.30, una voce femminile iniziò a contare in sequenza da 1 a 9 in russo. Dopo poco più di un'ora, alle 13.39 UTC, che ricordo qua in Italia erano le 14.39, venne trasmesso un messaggio vocale. Il 17 luglio 2015 la stazione trasmise quelle che sembravano essere un segnale di tipo radio teletype, in sottofondo segnale acustico. Lo scopo della stazione non è mai stato ufficialmente rivelato. Tuttavia, l'ex ministro delle comunicazioni dell'informatico della Lituania ha scritto che lo scopo dei messaggi vocali è quello di confermare che gli operatori delle stazioni di ricezione sono allertati. Altre spiegazioni sono che le trasmissioni viene costantemente ascoltata dai commissariati militari. È stato ipotizzato anche che i messaggi vocali siano una sorta di comunicazione militare cifrate russe e che il ronzio sia solo un marcatore utilizzato per mantenere la frequenza sempre occupata, rendendola così poco appetibile per altri potenziali utenti e in modo da poter prontamente trasmettere in caso di bisogno. Il suono caratteristico potrebbe essere utilizzato per sintonizzare il segnale su un vecchio ricevitore analogico. Un'altra teoria afferma che il segnale emesso dalla torre sarebbe stato utilizzato nel sistema di controllo nucleare sovietico, in uso durante la Guerra Fredda ed ancora attivo secondo alcuni. Concepito come strumento di deterrenza, in base all'ipotesi, avrebbero la funzione di innescare il lancio di missili nucleari in caso di attacco nucleare al paese e si provocherebbe così la reciproca autodistruzione di entrambe le fazioni. Ciò avverrebbe in caso di cessazione del ronzio. Ci sono altre due stazioni russe che seguono uno schema simile, soprannominato The P-Pipe e The Squeaky Wheel. Come il Buzzer, queste stazioni trasmettono un suono caratteristico che viene ripetuto costantemente ed ogni tanto viene temporaneamente interrotto per trasmettere messaggi vocali codificati. Come The Buzzer, queste stazioni trasmettono un suono continuo. Nel caso di Pip si tratta di un cicalino, mentre The Squeaky Wheel di un suono simile al cigolio di una ruota, interrotto occasionalmente da trasmissioni vocali cifrate. Il trasmettitore è originale, era situato vicino a Povarovo, in Russia, che si trova a metà strada da Zelyongrad a 10 km a nord-ovest di Mosca, vicino al villaggio di Lotsky. La posizione e il nominativo erano sconosciuti fino alla prima nota trasmissione vocale del 1997. Nel settembre 2010 il trasmettitore della stazione è stato trasferito nei pressi del villaggio di Kero Massiv, vicino a Leningrado, non lontano dalla città di San Pietroburgo. Il trasferimento potrebbe essere dovuto ad una riorganizzazione delle forze armate russe. Anche per oggi la puntata dedicata al radioascolto è finita. Chi volesse contattarmi per chiedere informazioni sul radioascolto oppure proporre argomenti per la trasmissione può indirizzare le richieste ai seguenti indirizzi: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia. Oppure scrivere una email a radionotizie@hotmail.com. Inoltre, chi volesse visualizzare la pagina web della rivista può digitare sul computer www.aer.org.es/radionotizie. Un saluto a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Dario Gabrielli. Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto di Yoga Network, la nostra radio, a volte è letteralmente radio, a volte è Radio Echo One, ma in realtà questi sono titoli di trasmissioni. La nostra radio si è sempre chiamata Yoga Network, in realtà, tanto più che il nostro indirizzo di posta elettronica è da sempre radioyoganetwork@gmail.com. E anche se di volta in volta abbiamo aggiunto davanti al nome Yoga Network letteralmente radio, a volte d'ora in poi Radio Echo One, siamo sempre e saremo sempre Yoga Network. E avevamo anche messo giù una nuova programmazione che doveva partire da febbraio 2021, anzi parte, e per chi mi sta ascoltando, magari in realtà mi state ascoltando nel 2058, nel mese di agosto, ma comunque per chi mi sta ascoltando in tempi un po' più recenti,

è il suo nome principale tra gli infiniti, sappiamo che Dio ha infiniti nomi, è Krishna, l'infinitamente affascinante. Infinitamente affascinante perché? Perché è una persona che riesce ad affascinare tutti, ma proprio tutti, questa può essere solo Dio. Qualcuno può dire, ma c'è qualcuno che non è affascinato da Dio, ma come no? Dio è dovunque, è in ogni cosa, oltre che essere una persona specifica. E se non riusciamo ad essere affascinati dalla sua forma personale, la forma suprema da cui tutto ha origine, sicuramente saremo affascinati, qualcuno sarà affascinato dalle sue manifestazioni. C'è chi è affascinato dalla natura, dalle altre persone, perché no? Da se stesso. Insomma, tutto quello che ci circonda è Dio. Quindi Dio, Krishna, la persona suprema, è l'infinitamente affascinante. L'importante è esserne consapevole. Per questo che i devoti di Krishna offrono tutto quello che hanno, ogni loro piacere, ogni loro sensazione, ogni loro soddisfazione, ogni loro attività, ogni loro capacità a servizio di Krishna. Perché noi non siamo questo corpo, noi siamo anime spirituali eterne, eterni servitori di Dio. Quindi questa non è l'unica volta che siamo in vita, in un corpo specialmente. Sono miliardi di corpi che abbiamo sperimentato fino ad ora. E il successo di questa esperienza, anche se è stata un'esperienza che poteva anche non essere fatta, se eravamo più così intelligenti, abbiamo avuto questo dubbio di venire a vedere se da qualche parte potevamo essere noi Dio. Adesso che abbiamo capito che non è così, possiamo dire di aver fatto buon uso di questa esperienza e possiamo tornarcene allora da Krishna. Perché noi non siamo questo corpo. E i devoti di Krishna in questi anni che di loro presenza in Occidente, in Italia, hanno tentato di spiegarlo veramente in tanti modi, in modo di portare questa notizia alle capacità, più possibilmente a tutte le possibilità di ogni persona di comprendere. Ed è per questo che sono stati fatti tanti esempi. Sono anche prove cosiddette scientifiche della preesistenza. Vabbè, andiamo ad ascoltare intanto uno Special Italia di Krishna Chaitanya Das. Facevamo qualche giorno fa, avevamo iniziato una specie di discorso attraverso 6 lezioni sulla trasmigrazione, 2 le abbiamo già dette, adesso riprendiamo, ricominciamo con la terza. Questa potrebbe intitolarsi, se dovesse avere un titolo, e può averlo, potrebbe intitolarsi così, 2: le azioni che compiamo all'interno del nostro corpo umano sono quelle che determinano il nostro corpo futuro. Non è un messaggio in codice. Se può apparire un po' oscuro, forse meglio riprecisare con una didascalia più ampia. Quello che noi facciamo all'interno di questo corpo che abitiamo è esattamente la somma di queste azioni, di questi comportamenti, sono quelle che determinano il prossimo corpo, il tipo di corpo prossimo che avremo. Come hai detto, scusa? Il prossimo tipo di corpo che avremo. Proviamo a considerare un attimo quelli che sono gli universi. Gli universi. Quanti? Gli universi. gli universi, fatti di tanti pianeti come questo dentro il quale noi, sopra il quale noi stiamo abitando, pieni, molti di loro, di milioni e miliardi di esseri viventi. Ah, pensavi che solo la Terra fosse abitata? Cogliamo l'occasione per ricordare che nei Veda, i grandi classici dell'India che noi proponiamo alla vostra attenzione, esistono descrizioni precise e mappe precise della geografia degli universi, e non è soltanto una geografia fisica, ma anche politica, nel senso che vengono spiegate e raccontati i modi e i tipi di vita che le diverse atmosfere rendono possibili agli abitanti di diversi generi, animali e anche umani, su tutti questi pianeti. La vita su altri pianeti, la vita in altri corpi. Bene, questi miliardi di esseri viventi, miliardi di miliardi di miliardi che vivono negli infiniti universi su sterminati e innumerevoli pianeti, tutti loro trasmigrano fra da un corpo a un altro, da un corpo al prossimo. Dalla minuscola ameba unicellulare fino alla grande balena blu, dal più piccolo bacillo alla sequoia più gigantesca, ogni organismo vivente nel nostro vasto universo è fatto di due componenti di base, il corpo materiale e quello che il corpo materiale fa animato, vivo, l'anima spirituale, eterna. In alcuni corpi le anime abitano per alcuni secondi, in altre per minuti, in altri per mesi, in altri per anni, e comunque quando il corpo non è più comodo, non è più confortevole, non è più abitabile, il corpo viene lasciato, abbandonato come si abbandona un'automobile che non funziona più, in panne, su una strada. Come si fa? Si apre la porta e si esce. Si lascia il veicolo, si lascia il corpo. Per entrare dove? In un seme, in un uovo, in un utero. We'll be right back. questo viaggiare di corpo in corpo succede in modo casuale o c'è una qualche regola che ne determina la successione? Una sequenza di tipo elettronico che si ripete così automaticamente? Ci sono risposte date negli antichi testi della conoscenza vedica. La Bhagavad Gita, il più importante, spiega che il corpo, in accordo a quella che viene chiamata la legge del karma, il corpo dentro il quale abita un essere spirituale eterno in una sua parentesi di esistenza è determinato direttamente dalla coscienza che ha saputo sviluppare, di conseguenza alle azioni che ha prima desiderato compiere e poi compiuto. L'individuo è libero di scegliere continuamente. Questa libertà è frutto dell'amore, parliamo di amore, che la persona organizzatrice della realtà, Dio, Krishna, prova per l'essere da lui creato. Come potrebbe esserci amore senza libertà di scelta? Potresti dire che il carceriere ama il recluso che tiene in catene? Potresti dire di amare qualcuno cui non permetti di esprimere la sua volontà e la sua libera scelta? Noi siamo amati e siamo liberi di scegliere, ma nessuno, io non, tu non, nessuno è capace di essere abile al punto di sottrarsi alle reazioni che lui stesso determina e mette in moto con i suoi desideri e le azioni che ne derivano. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto. chest, ogni parola. È così che il tuo presente viene dal passato, è così che adesso stai creandoti un futuro, libero di fare scelte ed anche di sbagliare. Non puoi tirarti indietro al momento di pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare. C'è sempre da riscuotere o pagare. Guarda un po' bene, vedi cosa fai. Guarda un po' bene, cosa cerchi, cosa vuoi. Guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto. Tu chi sei? Da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai. Da dove viene uno che nasce? Cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando dicono che è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? I grandi classici dell'India. I libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro. Non perdete questa meravigliosa opportunità. Regalate e regalatevi i grandi classici dell'India. Adesso. In Italia più di 200 banche esistono ormai che bancheggiano in seme. Mercato nero dello sperma. Di fronte a una spesa minima che va dalle 30.000 alle 50.000 lire che vengono pagate al donatore, il guadagno di una porzione di sperma rivenduta sul mercato per chi, soprattutto nel sud, sembra prolifichi questo mercato, per chi vuole sottoporsi a questa inseminazione artificiale, il prezzo è tra le 800 e 900 mila lire. Parlavamo di karma, di legge di causa ed effetto. Ognuno ha i genitori che si merita. Mamma, papà e pure la città. Nemmeno a caso è il posto dove si atterra su questo pianeta. Altrimenti perché tu mai saresti nato a Livorno e io a Milano? Ma non era mica quell'esplosione all'inizio, il Big Bang, che ha fatto tutto un caos, una confusione, per cui forse per caso poi uno è venuto di là, l'altro è venuto di là, bla bla bla bla bla bla bla bla. Finita questo speciale Italia dallo studio di Milano, proseguiamo sfogliando un giornale, titolo La violenza segreta, si chiama Incesto. Ma che notizie questa sera, prima pioggia acida, poi la banca dello sperma e poi l'incesto. Che notizie stamattina, ma che notizie stanotte. Ma dove le ha pescate questo? Sul giornale. Ricordate quella vecchia canzone del buon Adriano Celentano? Apro il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai? Washington. No, i padri incestuosi non sempre sono soltanto alcolizzati, violenti, senza scrupoli. Alle volte sono persone cosiddette normali, professionisti, direttori d'azienda, giovani e dinamici. La ABC, una delle maggiori reti televisive americane, dopo il grande grande colpo televisivo del film proiettato, ricorderete, in passato, che si chiamava The Day After, su una ipotetica esplosione nucleare, cioè esplosione, bomba atomica buttata su una città degli Stati Uniti, e descriveva il film appunto il giorno dopo, The Day After. La ABC fa un altro grosso colpo, mandando in onda negli Stati Uniti un film che si chiama A proposito di Amelia. 60 milioni di pubblico audience stimata. Il programma era stato, inutile dirlo, molto pubblicizzato. Si calcola che più appunto di 60 milioni di americani lo abbiano seguito, e anche i numeri di telefono che scorrevano in sovraimpressione sullo schermo erano quelli del consultorio del Dipartimento della Illinois per i servizi dell'infanzia e alla famiglia. Sono arrivate un sacco di telefonate dopo la produzione del film, erano voci di uomini, cioè di donne, di bambini, di ragazze, di ragazzini, giovani, giovanissimi, che denunciavano episodi incestuosi subiti in gioventù. Molti poi telefonavano, non riuscivano a parlare, forse si vergognavano, mettevano giù il telefono. Avevamo seguito non molto tempo fa sulla rivista americana, non ricordo se fosse Time o Newsweek, appunto un rapporto inquietante che dava i numeri della violenza privata negli Stati Uniti. Per violenza privata si intendevano non soltanto gli incesti, che sembrano essere ancora così al top, al culmine, prima in classifica nella violenza criminale privata, seguirono subito dopo le violenze carnali, gli stupri, tutta questa famiglia di cose. Ma perché stiamo dicendo tutte queste brutture? Stiamo dicendo queste brutture per così meditare, se fosse ancora necessario, per chi non fosse abituato a farlo, sulla qualità di vita che molte persone vivono, quindi la qualità di coscienza che molte persone vivono, che così si esprime nel fatto: mi piace questo, me lo prendo, se poi per fare questo uso la violenza a te e chi se ne importa, quel che importa è che sia soddisfatto io, con la I iper maxi maiuscola, io, mio, me. A proposito di Amelia, questo è il titolo del film prodotto e pubblicato, cioè trasmesso dalla ABC, rete televisiva americana, parla di un uomo giovane dirigente dell'azienda che per 2 anni impone un rapporto incestuoso alla figlia 13enne. La madre naturalmente non è al corrente di quanto succede in famiglia fino al momento in cui Amelia si ribella, rivelando tutta la storia per imboccare la strada dell'assistenza sociale e psicologica. Il lieto fine, il padre accetterà le sue responsabilità e si pentirà del suo gesto. Statistiche fatte immediatamente dopo e che precedevano comunque o concorrevano alla produzione e proiezione di questo film assicurano che negli Stati Uniti dai 12 ai 15 milioni di donne americane hanno avuto esperienze di incesto nella loro infanzia. Però nel 90% di casi nessuno parla, l'esperienza non viene rivelata per vergogna o pudore. Di sentire a questo punto un dolce canto trascendentale che possa in qualche modo riequilibrare questa sequenza di notizie inquietanti. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Dal fumo, come lo specchio è coperto dalla polvere, come l'embrione è coperto dall'utero, così l'essere vivente è coperto da differenti gradi di lussuria. Tre gradi di offuscamento possono velare la coscienza pura dell'essere. Questo offuscamento non è altro che la lussuria, nelle sue diverse forme, simile al fumo che copre il fuoco, alla polvere che copre lo specchio o all'utero che copre l'embrione. Paragonare la lussuria al fumo significa che il fuoco della scintilla spirituale resta leggermente percettibile. In altre parole, quando l'essere manifesta ancora, sebbene in modo attenuato, la sua coscienza di Krishna, Dio, è paragonato al fuoco coperto dal fumo. Non c'è fumo senza fuoco, sebbene all'inizio il fuoco sia talvolta invisibile. È questo l'inizio della coscienza di Krishna. La polvere sullo specchio ci ricorda che lo specchio della mente deve essere purificato con pratiche spirituali. La migliore di queste pratiche è il canto dei santi nomi del Signore. Infine, l'embrione coperto dall'utero illustra una condizione disperata, perché il bambino nel grembo della madre è così impotente da non potersi neppure muovere. Thank you. Il bambino nell'utero della madre, così impotente da non potersi neppure muovere, può essere paragonato come esistenza alla vita dell'albero. Anche l'albero è un essere vivente, ma ha manifestato una lussuria tale da rivestirsi di un corpo quasi totalmente privo di coscienza. L'esempio dello specchio coperto di polvere si applica agli animali, quello del fuoco coperto dal fumo all'uomo. Nella forma umana, l'essere vivente ha la possibilità di sviluppare la sua coscienza di Krishna. Se ne approfittiamo, questa forma umana servirà a riaccendere in noi il fuoco della vita spirituale. Manipolando bene il fumo, si può fare divampare il fuoco. Manipolando bene il fumo, si può fare divampare il fuoco. Non c'è fumo senza fuoco, sebbene a volte il fuoco sia invisibile. Grandi classici dell'India, dalla Bhagavad Gita. I grandi classici dell'India. I libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro. Non perdete questa meravigliosa opportunità. Regalate e regalatevi i grandi classici dell'India. Adesso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Listening to RKC Radio Krishna Chandrana. RKC is the in place to be. Because we give you good news, good music, and great transcendental vibrations. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For more information, call 055-820-161. That's 055-820-161. RKC is the in place to be. The in place to be. 055, diceva lei, 055 è il numero di Firenze, ma noi qui a Milano possiamo anche chiamare lo 0202-862417-862417. Ebbene sì, 862417, state ascoltando, attenzione che state ascoltando. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Qualcuno può risultare magari non una cosa troppo difficile capire di essere anime spirituali eterne. Ci sono sicuramente persone che da tempo sono interessate alla propria, a scoprire la propria vera natura e anche naturalmente a riallacciare la loro relazione con Dio. Vi assicuro che non è una cosa molto comune. Ci sono molte persone che pensano che tutto finisca quando finisce questa vita. Ed è su queste basi che c'è appunto questa, esiste questa corsa forsennata verso la gratificazione dei sensi. Di tipo godiamo adesso finché ci siamo, perché poi non si sa. Questa è la formula. E sì, invece ci sono tante persone che non si sono ancora posti il problema di che cosa farne di questa fortunata vita in un corpo umano con un'intelligenza, dicono, di grandi possibilità. Pensate un po' che ci siano ancora persone che pensano che gli animali non siano esseri viventi che soffrono, che non siano persone esattamente come noi, semplicemente con un corpo diverso, una coscienza diversa. E non c'è da stupirsi, anche perché ci sono ancora delle persone che pensano che basta avere un colore diverso di pelle, anche nell'ambito della razza umana, e già gli fa venire dei dubbi se queste persone sono anime spirituali eterne, se sono persone poi effettivamente come loro. Ci fu un tempo, e sicuramente ancora in qualche parte del mondo c'è questa idea, che le donne ad esempio non abbiano l'anima. Sono sicuramente persone che pensano di essere loro le persone più importanti di tutto l'universo e che se per importanza, se per definire una persona, quella persona deve essere quella che è in possesso dell'anima, allora solo loro ce l'hanno. Le donne non hanno l'anima, i negri non hanno l'anima, gli animali poi non se ne parla nemmeno, che dire delle piante. Quindi uccidiamo, disprezziamo, avveleniamo il pianeta, uccidiamo tutte le entità viventi, e alla fine che senso avrà? Che senso avrà? Rimarrà solo quella persona? Forse? No, non è possibile. Krishna, Dio, la persona suprema, queste follie non le permette, non le permette, oppure lo fa fino a un certo punto, giusto per vedere fino a che punto. Però poi c'è un limite a tutto, si dice. E a un certo punto Dio ferma questa follia dilagante. C'è qualcuno sicuramente che pensa che i bambini ancora non siano proprio delle persone. Tutta questa confusione nasce dal momento che noi non conosciamo la nostra vera essenza, perché se noi ricordiamo di essere anime spirituali eterne e che è questa scintilla infinitesimale ma più potente di mille soli che dà vita, questa è la differenza tra un corpo morto e un corpo vivo. Che differenza c'è tra un corpo morto e un corpo vivo? se volete potete andare a vedere, è un corpo morto, soprattutto diciamo se è una persona non proprio distrutta da qualche incidente, ha in effetti tutto quello a livello di organi, a livello materiale, tutto quello che ha un corpo vivo. Cos'è che manca allora? Manca l'anima, manca la nostra vera essenza, quello che è in effetti la persona. Quindi anche i bambini sono persone, e sono persone fin dal concepimento, attenzione. Nell'attimo che l'ovulo viene fecondato, lì entra l'anima. Allora andiamo a sentire qualcosa sui bambini, da un programma di Praladesh Das. L'argomento di oggi sarà i bambini. Articolo intitolato, interessante, intitolato "È tutto cambiato, imparati, si nasce". E il sottotitolo dice: lo sapevate che i bambini incominciano a vedere e a udire quando sono ancora nel grembo materno? Figuratevi cosa sono capaci di fare alla seconda o alla terza settimana di vita. Comunque andiamo avanti. Vediamo un po'. Avvicinate velocemente al viso di un neonato la mano e lui cercherà di tirare indietro la testa. Sollevate il bambino dal lettino, prono, in modo che veda sotto di sé, un po' più in alto del solito, e il suo cuore allo stetoscopio eleverà il numero e tono dei battiti, testimoniando l'agitazione del piccolo per il vuoto che gli si è formato sotto. Avanti nel tempo, quando il neonato sa già stare seduto, fate avanzare lentamente verso di lui una parete mobile, esperimento di George Butterworth, uno studioso britannico dei comportamenti dei bambini. E il piccolo cadrà all'indietro, fatela arretrare e lui cadrà in avanti. Il bimbo, cioè, non solo ha già dai primissimi mesi di vita una visione stereoscopica, ma categorizza, cioè collega concetti astratti ad esperienze concrete e conduce avanti assieme a livello cerebrale due o più ordini di ragionamenti. Tutto questo costituisce una radicale inversione di rotta rispetto a un passato anche recente. In testi di pediatria degli anni 60 si ritrovano, riferite con ogni rispetto, affermazioni secondo cui alla nascita il cucciolo dell'uomo non vede e non sente. Tra parentesi, le stesse idee di quando John Locke nel XVII secolo definiva il neonato una tabula rasa cui tocca tutto apprendere. Chiusa parentesi, ma andiamo avanti. Ancora, il neonato è una massa di confusione, secondo William James, un essere non diverso da un piccolo animale. Il medico che si occupava dei bambini non era ancora in grado di parlare. Era poco più di un veterinario applicato, dice Antonio Marini, neonatologo della clinica Mangiagalli e docente dell'Università di Milano. Ora abbiamo riscoperto il neonato come un essere umano a pieno titolo, attivo nell'organizzazione delle sue percezioni, più precoce in tutto rispetto a quanto si pensava. Voi direte, ma a noi che ci interessa questo? In effetti io leggo questo articolo perché rivela questo articolo delle cose che noi sapevamo già. Dice, noi chi? Noi devoti di Krishna. Però notare, non noi devoti di Krishna di adesso, noi devoti di Krishna in senso anche di migliaia di anni fa, perché i devoti di Krishna queste cose qua le sanno da migliaia di anni. Solo che di tanto in tanto succede che la scienza finalmente ci azzecca qualche volta, e quando ci azzecca cosa succede? Succede che semplicemente dimostra quello che è scritto nei Veda da migliaia e migliaia di anni. Comunque andiamo avanti, eh? Questa non piccola riscoperta è stata resa possibile sul piano tecnologico dal computer e dal video, con la possibilità del ralenti, cioè del rallentatore, e così della scomposizione di ogni più rapido movimento in decine di immagini. Dunque. Un esempio fra moltissimi. Filmando per alcuni minuti la scena di due genitori con il loro bambino di pochi giorni, si ha una di quelle sequenze tanto commoventi per gli interessati quanto, ohimè, banali per un osservatore qualsiasi. Ripassando però la pellicola al massimo del rallentamento, si notano dati prima sempre sfuggiti, specie sotto l'angolo del rapporto figlio-madre. Una serie di brevissimi sguardi furtivi del piccolo verso la mamma, rapidi colpi d'occhio di lei in risposta, istantanee pressioni tranquillizzanti della madre sulla mano e sul corpo del neonato. Tutta cioè una comunicazione complessa, sia tattile che visiva, della durata di pochi attimi. Verbalmente muta, ma non per questo meno significativa. Interessante, eh? Stiamo addentrandoci nel vivo dell'argomento. E dietro alle nuove macchine c'è anche una nuova generazione di studiosi. Negli Stati Uniti gli esperimenti sulla prima infanzia si sono triplicati solo negli ultimi 5 anni. Dicevo, studiosi che hanno dedicato all'esame del bambino passione, intelligenza, strumenti e tempo. Tempo completa infatti, sorridendo, un vecchio pediatra, vecchio professionalmente ma giovane, sempre in funzione, vecchio pediatra tra i più noti di Milano, Renato Pozzolini, che in 50 anni di attività ha maneggiato da neonati e poi affettuosamente seguito per non meno di 15.000 bambini. Negli anni della guerra e in quelli successivi la verità è che il medico veniva chiamato per un bambino soltanto quando il piccolo stava male. Così noi sapevamo molto della patologia del bambino malato, però non sapevamo nulla di quando il bambino è sano. Così è da poco che si studia, naturalmente una cosa molto importante, la fisiologia del neonato sano. Sì che andiamo avanti. Le nuove conoscenze rivoluzionarie riguardano intanto i 5 sensi. Bene, secondo la cultura vedica i sensi sono 6, ma fa niente. Diciamo come, sono 5 o sono 6? Se sono 6, qual è il sesto? Naturalmente il sesto senso lo sapete tutti che è, no? Che cos'è? La mente. Questo lo dice Sri Krishna nella Bhagavad Gita. C'è un verso celebre in cui Krishna dice che l'entità vivente è costretta a lottare quotidianamente con la natura materiale composta dei 6 sensi, tra i quali appunto c'è anche la mente. Gli altri 5 naturalmente li conosciamo tutti. Comunque andiamo avanti e vediamo un po' cosa dice questo nostro articolista. Dice: ora sappiamo che il bambino vede più, meglio e prima di quanto si era a lungo creduto. Bene, allora andiamo avanti. Già alla nascita è capace di mettere a fuoco gli oggetti. Pensate un po', Tutti pensavano che il bambino non ci vedesse per nulla appena nato. Invece qui dice, già alla nascita è capace di mettere a fuoco gli oggetti in un raggio iniziale inizialmente ristretto a 20-30 centimetri, che poi è la distanza a cui si trova nella poppata il viso di sua madre. A poche ore dalla nascita gira gli occhi in sincronia, mentre in passato si pensava che la visione sincrona sopravvenisse molto più tardi. Io questo l'ho proprio sperimentato guardando mia figlia appena nata, in effetti gli occhi li muoveva proprio sincronizzati, anche se magari qualcuno ogni tanto, diciamo che cioè magari l'occhio sinistro si girava e l'occhio destro ci metteva magari qualche secondo per andargli dietro, però tutto sommato il risultato finale era che gli occhi si muovevano tutti nella giusta direzione. Quindi questa è ovviamente una cosa confermata. Bene, poi dice perseguire, allora qui si gira gli occhi il bambino per seguire i movimenti di chi gli è attorno e già tenta di girare anche il capo se la persona esce dal campo visivo. Riconosce dalla terza settimana di vita i colori e apprezza già le distanze. Mostra di preferire immagini a scacchi rispetto a quelle in tinta unita, i cerchi alle linee rette, vale a dire preferisce la complessità alla semplicità, i visi sorridenti a quelli tristi. Qui alla fisiologia della vista si è già unita una reazione psicologica. Ok, andiamo avanti. L'udito, ecco il secondo senso, l'udito è ben funzionante fin da quando il piccino viene al mondo. egli ode i suoni e ne riconosce la provenienza. Ed è per questo che Frédéric Le Boyer, l'ideatore della nascita senza violenza, raccomanda di evitare grida e rumori forti in sala parto. Con i prematuri, Antonio Marini consiglia, per accelerare riequilibrio e crescita, che la madre o il padre stiano per qualche mezz'ora al giorno accanto all'incubatrice e tocchino il bambino e gli parlino con dolcezza. A 3 giorni il neonato discrimina la parola umana dagli altri suoni. A 5 distingue tra voci maschili e voci femminili e già tra 2 sillabe, pur con vocale uguale, per esempio pat e tap, il bambino è già in grado di distinguere questi due suoni differenti, dando così ragione al linguista Noam Chomsky, che ipotizza una predisposizione innata al linguaggio, contro invece all'opinione dello psicologo Jean Piaget, per il quale il linguaggio era sempre e solo acquisito e non innato. Allora, a 7 giorni ogni bambino riconosce la voce della madre fra quella di più donne. Se la mamma è triste e ansiosa, il neonato lo sa, e a sua volta, teso in volto, piange e fa le bizze. L'odorato. Dalla nascita il bambino distingue gli odori forti, fa una smorfia, da quelli gradevoli. Al 3° giorno riconosce l'odore della madre, dalla pelle, se lei è presente. Al 10° l'esperimento è di Humbert Montagueur, individua la biancheria materna fra 10 indumenti di donne diverse che gli vengono passati sotto il naso. Praticamente è come un segugio, come un cane da caccia, già in grado di distinguere profumi diversi. Forse l'udito, cioè scusate, l'udito, l'olfatto del bambino è migliore, appunto, l'olfatto umano è migliore quando uno è bambino che non quando uno è adulto. Molto probabile, in fin dei conti. Anche se vi ricordate quel discorso che si facevano sull'invecchiamento la puntata scorsa, o una delle puntate scorse. Va bene, passiamo al gusto, il quarto senso. Appena nato il bambino sorride felice se gli si sfiorano le labbra con un dito bagnato in acqua e zucchero. Esprime invece disgusto se il dito era stato intinto in una sostanza amara. E distingue a 24 ore il latte della madre da quello di un'altra donna. Avete capito, eh? Quanto al tatto, cioè il piacere di toccarsi, il gusto di essere accarezzato, l'importanza del continuo contatto anche proprio corporale con la madre, qui la scienza, anche di anni relativamente lontani, aveva consentito nel riconoscere questo sviluppatissimo senso tattile al neonato. E l'attachment theory di John Bowlby, del 1968, cioè la teoria dell'attaccamento, sia spirituale che fisico, naturalmente qui questo spirituale è da intendersi come mentale o sottile, perché queste sono quelle classiche situazioni in cui la stampa o l'informazione mondana usa la parola spirituale a sproposito, semplicemente dovuto al fatto che loro non sanno cosa vuol dire veramente spirituale. Comunque dice che la teoria dell'attaccamento spirituale e fisico del bambino alla madre nei primi 3 anni di vita ha indicato che questa funzione, per questa funzione una origine evolutiva ancestrale. Questa naturalmente è una bella speculazione, ma comunque noi la leggiamo lo stesso. Solo i figli dotati della caratteristica genetica di stare attaccati alla madre, perché anomali o perché più paurosi, sono sopravvissuti. Gli altri, che erano rimasti distanti anche di un solo passo, se li sono mangiati le tigri o altri predatori che seguivano le mandri umane in movimento. Oh, naturalmente dicevo, questa è una speculazione, perché noi non siamo dell'idea che le cose siano andate così, perché secondo noi quella che viene indicata come l'età primitiva della razza umana, no? Cioè con questi pseudo uomini, mezze scimmie che uccidevano gli animali con sassi, pietre, bastoni, cioè gli uomini della pietra, insomma, secondo noi questa è una cosa completamente campata in aria. Campata in aria nel senso che Non che gli uomini non abbiano vissuto in questo modo, per carità, anzi, vivranno anche in futuro in questo modo. Questo infatti è previsto nello Srimad Bhagavatam, nel 12° canto, dove sono elencate le previsioni nefaste per le radicali, che è appunto quello in cui noi viviamo adesso. Però nel passato non era una preistoria, perché secondo la filosofia vedica l'uomo esiste da sempre, cioè dall'eternità praticamente, si può dire praticamente, ma o comunque senz'altro da milioni di anni. Ma quella, dicevo, questa età preistorica, non è l'età preistorica, ma non è altro che i resti, le ultime rimanenze della precedente età di Kali. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, che l'universo è sottoposto a un ciclo temporale di 4 ere, Satya Yuga, che dura mi pare un paio di milioni di anni, Treta Yuga dura 1.000.000+ di anni, Dvapara Yuga dura 1.000.000 appena di anni, anzi no, 800.000 anni, e Kali Yuga dura 432.000 anni. E queste ere si susseguono costantemente, e ogni giorno di Brahma, vale a dire ogni 4 miliardi e 320 milioni di anni, ci sono ben 1.000 di questi cicli di 4 ere. Vale a dire che un ciclo completo dura 4 milioni e 320 mila anni. Incredibile, e comunque invece è proprio vero, questo è tutto confermato dai Veda. Anzi, voi direte, ma come fare a credere una cosa così? Vabbè, è scritto nei Veda, però a noi che ci interessa che è scritto nei Veda? Beh, ragazzi, dopo vi faccio leggere quello che dicevano i Veda 5.000 anni fa, cioè che diceva Vyasadeva, compilatore dei Veda 5.000 anni fa, riguardo ai bambini. La scienza ci è arrivata adesso, i Veda lo sapevano da sempre. Comunque andiamo avanti con questa teoria riguardo al tatto. Enrico Galeotto, primario padovano, eccone qua uno, buongiorno signor Enrico Galeotto, spero che lei sia in ascolto, qui parlano di lei, se lei è in ascolto di Radio Krishna Centrale allora lei è un'anima molto fortunata, se comunque invece lei non fosse in ascolto, se ci fosse qualcuno che è in ascolto del signor Enrico Galeotto, primario padovano di anestesiologia, sessuologo, esperto di preparazione al parto e dei problemi della prima età, allora potete telefonargli a questo nostro Enrico e dirgli che qui a RKC si parla anche di lui. Lui è molto importante perché addirittura è nominato dalla radio di Krishna, e Krishna è Dio. Allora, si diceva che Enrico Galeotto, che invitiamo naturalmente a chiamarci al 760007 049, previsto di Padova, ma penso che lui non abbia problemi perché sia di Padova. Enrico Galeotto, primario, eccetera, eccetera, eccetera, ricorda che in molti animali è il leccamento prolungato della madre che stimola i meccanismi della peristalsi gastrica e dell'urinazione. Vabbè, questo non è che ci interessa molto. Comunque continua dicendo che nell'animale superiore il fenomeno si è attenuato e spiritualizzato. E ancora questo uso improprio della parola spiritualizzato, pensate un po' se un fenomeno come il leccamento si deve spiritualizzare, ma comunque, beh sì, in effetti se voi leccate un gelato offerto a Krishna, beh quello è un leccamento spiritualizzato. Comunque andiamo avanti. Ma risponde certamente a queste lontane leggi di avvio funzionale per attrito e stimolazione, l'usanza istintivamente comune ad ogni madre di coprire di piccoli baci dopo il bagnetto e in molte altre occasioni il corpicino del loro bimbo. In particolare noi devoti di Krishna ricordiamo che invece l'usanza vedica è un filino più igienica, no? Perché in effetti dare i baci, insomma, è un ottimo metodo per contaminare il proprio bambino, no? E riempirlo di tutti i germi e microrganismi che sono costantemente presenti nella nostra bocca. Non so se voi sapevate, ma secondo la filosofia, la cultura vedica, l'antica cultura vedica, la bocca è delle 9 porte del corpo umano, 9 aperture del corpo umano, è considerata la più contaminata, la più carica e ricca di germi e di sostanze nocive. Quindi se proprio volete in qualche modo dimostrare il vostro affetto al vostro bambino, noi non vi consigliamo di sbaciucchiarlo, ma semmai, come dicono appunto i Veda, di passare il vostro naso sui suoi capelli, cioè sulla sua testa. Questo lui lo riconoscerà sicuramente come un ottimo gesto di benevolenza e di amore verso di lui. Provare per credere. D'accordo, andiamo avanti. Del resto è lo stesso Galeotto, il nostro Enrico abitante a Padova, a ricordarci che i sensi del bambino sono quasi tutti attivi già molto prima della nascita. Bisogna che lo andiamo proprio a provare, a trovare il nostro professore Enrico Galeotto, perché questo qui ci ha visto proprio giusto. Gli regaleremo una serie completa dei grandi classici dell'India, una bella collana dei grandi classici dell'India, così lui potrà vedere a che punto era la ricerca scientifica 5.000 anni fa. Va bene, dice Galeotto che i sensi del bambino sono quasi tutti attivi già molto prima della nascita. Ancora nell'albo materno il bambino apre gli occhi e vede alla 16ª settimana, pensate un po', il suo battito cardiaco aumenta, per esempio, se all'esterno si punta una luce forte sul ventre della madre. L'udito è buono a partire dal 6° mese e si è ipotizzato che la disponibilità ad apprendere rapidamente il linguaggio dopo la nascita sia appunto una conseguenza del fatto che il neonato oscuramente ricorda, questo ricorda loro l'hanno scritto tra virgolette, noi le virgolette le togliamo, oscuramente, ma neanche tanto oscuramente, ricorda timbri, toni, persino frammenti di parole che ha udito dal pancino dove stava quando i genitori parlavano fra loro. Vale la pena, fra l'altro, di ricordare che il feto ode suoni anche al di qua e al di là della fascia dai 30 ai 18.000 Hz che è capace di udire l'adulto. La fascia d'ascolto del bimbo non ancora nato si presenta simile a quella dei delfini e delle balene, cioè da 16 a 180.000 Hz, pensate un po', sono ben oltre 100.000 Hz in più che noi non riusciamo a sentire, sentono anche gli ultrasuoni. Forse il ricordo di una lontanissima ascendenza, e qui un'altra bella speculazione, ma vabbè, insomma, sai che sappiamo che la scienza umana è fissa sulla teoria darwiniana, quindi andiamo avanti. Dice, forse un ricordo di una lontanissima ascendenza del mammifero uomo, prima scimmia e prima ancora pesce venuto dall'acqua, in comune con i fratelli pesci mammiferi. Già nell'utero il bambino compie atti di tipo respiratorio, dice il nostro Enrico Galeotto. Negli ultimi mesi della gestazione allarga le narici, gonfia il torace, fa così scendere il diaframma e sono movimenti apparentemente inutili. Il polmone è ricoperto da surfattanti, sostanze impermeabili all'acqua, per cui il liquido amniotico comunque non vi penetra. Ma in realtà è questa un'importante ginnastica pre-respiratoria. Non diversamente, per prepararsi alla nutrizione, il feto succhia e ingurgita il liquido amniotico che poi passa attraverso il canale alimentare e viene riespulso attraverso le urine nel sacco ovulare. La nascita, in sostanza, è per il bimbo soprattutto un cambiamento d'ambiente, da quello del piccolo mondo protetto nel ventre della madre al mondo esterno senza confini e pieno di pericoli. Molto interessante questo articolo, eh? Comunque leggiamo ancora un pochino, poi inizieremo a commentare secondo la cultura della filosofia vedica. Dice, non a caso una vecchia usanza cinese faceva festeggiare a 3 mesi il primo compleanno del neonato, che era considerato appunto già vecchio di 9 mesi quando veniva al mondo. E anche l'Occidente ha adesso abbandonato il concetto, durato però fino alla scoperta e all'impiego dell'apparecchio encefalografico, che il bambino, cioè che, scusate, che il cervello del bambino si attivasse solo dopo la nascita. Oggi appunto l'EEG, cioè l'elettroencefalogramma di un feto di 7 mesi, mostra la presenza delle stesse onde elettriche encefaliche che si riscontrano nel bambino di qualche mese. Al momento dunque in cui nasce, il bimbo è già equipaggiato di tutto, sia pure incompletamente. Quando non sa risolvere un problema, non è che non lo capisce, è solo che non ha ancora i mezzi, più spesso fisici e motori che psichici, per affrontarlo. Bene, adesso un'ultima cosa, poi passiamo alla versione vedica del fatto. Dice, diciamo un po' il finale dell'articolo, dice: la scoperta di questa sconfinata rosa di capacità del neonato non deve farci cadere, si capisce, nell'eccesso opposto, quello di esagerare nella stimolazione di un bambino così più pronto, più attivo di come lo giudicavamo in passato. Non facciamo della sua genialità il pretesto per insegnargli subito a leggere, a scrivere o suonare il violino. Ronald Lang, noto studioso della psicologia infantile, dice: la rete del metodo scientifico non pesca l'oceano nella quale è gettata. Se peschiamo qualcosa, e appunto ci succede, l'oceano rimane molto più grande delle nostre possibilità di comprensione. Ora, se al posto della parola oceano ci mettiamo la parola bambino, abbiamo capito molto, eh? In effetti per noi possiamo anche lasciarci la parola oceano, perché questo è un ottimo esempio, lo ripeto. La rete del metodo scientifico non pesca l'oceano nel quale è gettata. Se peschiamo qualcosa e appunto ci succede, l'oceano rimane molto più grande delle nostre possibilità di comprensione. Solamente uno scienziato intelligente può dire una cosa così. Ma evidentemente non ce ne sono tante in questo mondo, eh? Addirittura alcuni, pochi di questi scienziati intelligenti sono diventati devoti di Krishna e hanno fondato un istituto che si chiama Bhaktivedanta Institute, che è un istituto che è appunto chiamato di studi superiori, in cui questi scienziati utilizzano tutti i mezzi e le scoperte scientifiche per dimostrare al pubblico, alla gente, agli scienziati stessi, che Dio esiste, che la vita viene dalla vita e non dalla materia, e che l'universo è stato creato. Va bene, allora adesso io direi di proporre ai nostri gentili ascoltatori un stacchettino musicale devozionale, cioè fatto dai devoti di Krishna, e poi andiamo a sentire un po' qual è la versione dei fatti secondo la filosofia vedica, l'antica filosofia vedica. Quindi ci risentiamo fra non so, il tempo che dura questa canzone, con la parte più interessante di questo articolo. A caterpillar changed his mind and woke to find himself refined. His old self had to die for him to be a butterfly. He tired of walking on the ground, and so around himself he wound a screen of silken strands, a veil untouched by human hands. Then something subtle changed within, reflected by his changing skin. He had a change of heart and wished to play another part. He changed from worm to butterfly, and if he could, then so could I. I want to free my mind, rise beyond the waves of time, beyond this burning dark abyss, up to that land. Thank you. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora, eccoci qua con la versione vedica di tutta questa situazione qua. Allora, si diceva prima di come la scienza di tanto in tanto ci azzecca, nel senso che di tanto in tanto dimostra cose che invece nei Veda si sapevano già da migliaia e migliaia di anni. Queste appunto, queste cose riguardo al bambino sono cose che appunto vengono descritte nel terzo capitolo, cioè nel terzo canto, 31° capitolo dello Srimad Bhagavatam. Quindi per chi avesse a casa la collana I grandi classici dell'India è il sesto volume. Chi non ce l'ha, pregato di mettersi in contatto con noi, telefonateci al 760007 prefisso 049, oppure venite a trovarci in via delle Granze 107 qui a Padova e noi ve lo forniremo. E adesso io vi leggerò I versi, magari se c'è qualcosa di particolarmente interessante, in effetti c'è sempre, però dovuto anche un po' al nostro tempo disponibile, c'è anche il commento per ogni verso di Srila Prabhupada. Adesso vediamo un po' se riusciamo a leggere anche qualcosina del commento. Comunque ci sono dei versi molto interessanti. Allora, iniziamo dal primo verso del 31° capitolo. Il Signore Supremo disse, un piccolo descrizione dell'antefatto, qui è Kapila Deva, che è un'incarnazione di Krishna, che sta parlando a sua madre e sta raccontando tutto quello che succede all'entità vivente dall'istante della morte, di cui si discuteva nel capitolo precedente, nel 30°, fino alla nascita e così via. Il Signore Beato, il Signore Supremo disse: sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere, l'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. La prima notte si attua la fusione dello sperma con l'ovulo e la quinta notte il risultato di questa fusione germina in una bolla. La decima notte essa si sviluppa e prende la forma di una prugna, quindi si trasforma gradualmente in un piccolo ammasso di carne o in un uovo a secondo dei casi. In un mese si forma la testa e in due mesi prendono la forma le mani, I piedi, le altre parti del corpo. Alla fine del terzo mese appaiono le dita delle mani e dei piedi, le unghie, I peli, le ossa e la pelle, e insieme gli organi genitali e gli altri orifizi del corpo, cioè gli occhi, le narici, gli orecchi, la bocca e l'ano. 4 mesi dopo il concepimento, I 7 componenti fondamentali del corpo, cioè il chilo, il sangue, la carne, il grasso, le ossa, il midollo e il liquido seminale, sono già presenti. Alla fine del 5° mese la fame e la sete si fanno sentire e alla fine del 6° il feto, prigioniero della cavità amniotica, comincia a muoversi nel lato destro dell'addome. Ecco, qui giusto c'è una interessante specificazione di Srila Prabhupada nel commento. Dice: quando alla fine del 6° mese il corpo è completamente formato, il bambino, se si tratta di un maschio, comincia a muoversi sul lato destro e se si tratta di una femmina si muove sul lato sinistro. Quindi potete controllare voi donne incinte che avete un bambino nella pancia, se questo bambino si muove dalla parte destra è un maschio, si muove dalla parte sinistra è una femmina. Poi ci telefonerete per confermarci o meno. Continuiamo a leggere I versi. Assicurandosi nutrimento attraverso il cibo e le bevande ingerite dalla madre, il feto si ingrossa e resta confinato in questo orribile ricettacolo di escrementi e di urina, dove proliferano ogni sorta di vermi. Voi direte, ma come mai il liquido amniotico viene descritto come un ricettacolo di escrementi di urina? Beh, è chiaro, perché il bambino, come diceva del resto il nostro articolista qua, il bambino passa urina, cioè urina effettivamente, no? Beve questo liquido amniotico che poi viene passa tutto il suo organismo e poi viene urinato fuori alla fine. Quindi alla fine questo bambino si trova immerso nell'urina e decisamente non è una situazione molto piacevole. My friend, I really meant to Qui c'è un commento un po' lunghino, dice la Prabhupada, ma lo leggiamo perché può essere interessante anche per tutte le donne che adesso stanno aspettando un bambino. Dice, il Markandeya Purana, che è un'opera vedica, insegna, un'opera molto antica, insegna che all'interno dell'intestino della madre il cordone ombelicale, conosciuto come Appiayani, lega il bambino all'addome materno ed è attraverso questo condotto che il figlio si nutre degli alimenti che la madre ha assimilato. Così il bambino è alimentato mediante l'intestino materno e cresce di giorno in giorno. Le affermazioni del Markandeya Purana circa la situazione del bambino nel ventre della madre sono confermate esattamente dalla scienza medica moderna e ciò dimostra che l'autorità dei Purana non può essere confutata come talvolta tentano di fare i filosofi Mayavadi. Poiché il figlio dipende totalmente dalla madre per l'alimentazione, la madre deve sorvegliare il suo nutrimento durante la gravidanza. La donna incinta deve evitare di consumare troppo sale, peperoncini rossi, cipolle e altri alimenti simili, perché il corpo del bambino è troppo delicato e di formazione troppo recente perché possa tollerare un nutrimento così piccante. Le restrizioni e le precauzioni raccomandate dalle scritture smriti della letteratura vedica per la donna incinta si rivelano di grande utilità. Questi stessi testi ci permettono inoltre di capire quali precauzioni sono necessarie per generare un figlio sano. Così la cerimonia del Garbhadana, che deve svolgersi prima dell'unione sessuale, era imposta ai componenti dei gruppi superiori della società. Tutto ciò è assolutamente scientifico. Le scritture raccomandano anche l'osservanza di altre cerimonie, anch'esse molto importanti, nel corso della gravidanza. Il dovere principale dei genitori è quello di prendersi cura del bambino, perché così facendo essi contribuiranno a dare alla società una popolazione idonea a mantenere la pace e la prosperità nell'ambito della società e dell'umanità intera. Ecco, se avete seguito queste parole avete capito a che livello è Srila Prabhupada, vale a dire qual è la sua lucida consapevolezza della realtà delle cose. Comunque andiamo avanti, dice, costantemente morso in tutto il corpo da vermi affamati presenti nell'addome della madre, il bambino, così delicato, soffre terribilmente e perde coscienza istante dopo istante a causa di questa terribile condizione. Voi direte, ma cosa? Vermi nell'addome della madre? Di che sta parlando? Evidentemente questi vermi noi non li vediamo, devono essere degli esseri sottili che occupano il corpo della madre, eh? Ma comunque possiamo immaginarci che la situazione di un bambino nel ventre della madre è estremamente difficile, no? Costretto in così poco spazio, costantemente immerso nell'urina, perché abbiamo capito che sono escrementi, non è decisamente una bella situazione. Comunque andiamo avanti. Poiché la madre ingerisce cibi amari, piccanti, troppo salati e troppo acidi, il corpo del bambino è continuamente sottoposto a sofferenze quasi intollerabili. Srila Prabhupada dice, tutte le descrizioni della situazione in cui si trova il bambino nel ventre materno superano la nostra immaginazione. È molto difficile restare in questa posizione, ma il bambino vi si trova costretto. Egli riesce a sopportare questa condizione perché la sua coscienza non è molto sviluppata, altrimenti morirebbe. Questa è la benedizione di Maya, cioè dell'illusione, che dà al corpo torturato la facoltà di sopportare le terribili sofferenze alle quali è sottoposto. Quindi in un certo senso è vero che il bambino all'interno del ventre di sua madre è protetto dall'esterno, ma all'interno però soffre anche lui la sua brava dose di sofferenza materiale. Continuiamo. Chiuso nella cavità amniotica, circondato all'esterno dagli intestini, il bambino giace allungato su un lato dell'addome, con la testa rivolta verso il suo ventre e la schiena e il collo curvi come un arco. Il bambino si trova così come un uccello in gabbia, privo di ogni libertà di movimento. In questo momento, cioè in quel momento, se è fortunato, ecco qui, punto molto interessante, potrà ricordare tutte le difficoltà incontrate nel corso delle sue 100 ultime vite e soffrirà penosamente. Come potrebbe trovare la pace nella mente in questa condizione? Interessante, eh? Leggiamo la spiegazione di Srila Prabhupada. In effetti, guardate, qui io ve ne sto leggendo qualcuna, non tutte di queste spiegazioni di Srila Prabhupada, ma questo, io spero che questo vi stimoli a sufficienza da venire qua di corsa a prendere il sesto volume della serie della collana I Grandi Classici dell'India, che è appunto il terzo canto, perché questo capitolo qua è veramente molto molto interessante. Io tra l'altro l'avevo già letto, però l'avevo letto nella versione inglese, no? Perché non era ancora stato stampato in italiano il terzo canto quando l'ho letto io, no? E adesso che lo sto rileggendo in italiano trovo un sacco di cose che nella lettura in inglese naturalmente mi erano sfuggite. Comunque leggiamo questo particolare commento. Srila Prabhupada dice: dopo la nascita il bambino può dimenticare le difficoltà che ha conosciuto nel corso delle sue vite passate, ma diventati adulti possiamo almeno capire, attraverso la lettura delle scritture autorevoli come lo Srimad Bhagavatam, quali torture dolorose ci aspettano al momento della nascita e della morte. Se non abbiamo fede nelle scritture, allora questo è un altro problema, ma se crediamo nell'autorevolezza delle descrizioni che ci sono fornite, dobbiamo prepararci per ottenere la libertà nella nostra vita futura. Questa è la possibilità che la forma umana ci offre. Di colui che non approfitta di questi insegnamenti che caratterizzano l'esistenza umana, si dirà che senza alcun dubbio sta commettendo suicidio. È detto che la forma umana è l'unico mezzo per superare l'ignoranza di Maya, ossia dell'esistenza materiale. In questo corpo umano noi disponiamo di un solido vascello e vi è un capitano qualificato per guidarlo, il maestro spirituale. Le ingiunzioni delle scritture rappresentano i venti favorevoli. Se noi non superiamo l'oceano dell'ignoranza e dell'esistenza materiale, nonostante tutti questi vantaggi, senza alcun dubbio commettiamo volontariamente un suicidio. Allora, continuiamo a leggere questi versi che sono molto interessanti. Siamo al decimo verso. Dotato di coscienza dal settimo mese dopo il concepimento, notate bene, qui dice dotato di coscienza dal settimo mese dopo il concepimento, il bambino è spinto verso il basso dall'aria che preme sul feto nel corso delle settimane che precedono il parto. Come i vermi nati nella stessa cavità, egli non può rimanere fermo. In questa condizione spaventosa, l'essere vivente, prigioniero dei sette strati di componenti materiali che lo ricoprono, rivolge a mani giunte una preghiera al Signore Supremo che l'ha posta in questa situazione. Qui stiamo andando nel campo dell'incredibile, però noi vi preghiamo di continuare ad ascoltare, perché vedrete che non è poi tanto incredibile. Noi sappiamo che è vero. Per voi, cominciate ad ascoltare e vedrete che sono delle cose molto interessanti. L'anima umana dice: io cerco rifugio ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, che si manifesta in differenti forme eterne e cammina sulla superficie del globo. Egli è il mio unico rifugio, perché soltanto lui mi può liberare da ogni paura. È lui che mi ha posto in questa situazione perfettamente adatta alle mie attività empie. Io, pura anima spirituale, sono ora legata alle mie attività, imprigionata nel grembo di una madre per un piano di Maya. Offro il mio rispettoso omaggio a colui che si trova qui al mio fianco, ma resta sempre inalterabile e immutabile. A lui, che pur essendo illimitato, si lascia percepire da chi ha il cuore pentito. Io offro il mio rispettoso omaggio. Benché io sia di natura spirituale, sono ora separato dal Signore Supremo, perché sono ricoperto di un corpo materiale costituito di cinque elementi. Perciò le mie qualità e i miei sensi sono male utilizzati. Io offro il mio rispettoso omaggio al Signore Supremo, che trascende la natura materiale e gli esseri individuali. Lui che non ha un corpo di materia e splende sempre nella gloria delle sue qualità spirituali. L'anima umana continua. L'essere individuale è sottoposto all'influenza della natura materiale e continua la sua dura lotta per l'esistenza sulla via delle nascite e delle morti ripetute. Questa esistenza condizionata è dovuta all'oblio della relazione che lo unisce a Dio, la persona suprema. Perciò, senza la misericordia del Signore, come potrebbe impegnarsi di nuovo nel trascendentale servizio d'amore offerto al Signore? È Dio in persona e nessun altro che nella forma di Paramatma localizzato, la sua rappresentazione parziale, dirige sia gli esseri animati sia gli oggetti inanimati. Egli è presente nelle tre fasi del tempo, cioè il passato, il presente e il futuro. Perciò è sotto la sua direzione che l'anima condizionata si dedica a differenti attività. E per potersi liberare dalle tre forme di sofferenza legate a questa esistenza condizionata, deve abbandonarsi a lui e a lui soltanto. Caduta all'interno del ventre di una madre, in questa cavità piena di sangue, escrementi e urina, col corpo tormentato dal terribile calore emesso dal fuoco gastrico della madre, l'anima incarnata, impaziente di lasciare la sua prigione, conta i mesi e prega. O Signore, quando io, misera anima, sarò liberata da questa prigionia? Caro Signore, grazie alla tua misericordia senza causa, la mia coscienza si sveglia, benché io abbia solamente 9 mesi. Per questa misericordia immotivata che mi hai accordato, Signore Supremo, amico delle anime cadute, non vedo altro modo di esprimerti la mia gratitudine che quello di pregarti a mani giunte. L'essere incarnato in un'altra specie di vita vede solo per istinto, conosce solo le percezioni sensoriali gradevoli o sgradevoli di quel corpo particolare. Ma io, incarnato in una forma umana, possiedo un corpo che mi permette di controllare i sensi e di conoscere il mio destino. Offro dunque il mio rispettoso omaggio a Dio, la persona suprema, che mi ha benedetto concedendomi questo corpo, grazie al quale lo posso contemplare all'interno come all'esterno. Perciò, Signore, benché mi trovi in una terribile condizione, non desidero lasciare il ventre di mia madre per non dover precipitare di nuovo nel pozzo scuro dell'esistenza materiale. La tua energia esterna, detta Deva Maya, fa prigioniero il neonato fin dal suo primo apparire, e questi adotta subito una falsa identità che segna l'inizio del ciclo continuo di nascite e morti. Perciò, senza più lasciarmi turbare, mi sottraggo alle tenebre dell'ignoranza, con l'aiuto della mia amica, la chiara coscienza. Sarà sufficiente che io serbi nel cuore i piedi di loto di Sri Vishnu per non dover più entrare nel grembo di un'altra madre e subire il ciclo di nascite e morti. Come vedete, questi sono i pensieri, le cose che pensa, che pensa sì, un bambino quando è all'interno dell'utero di sua madre. Adesso voi direte, un'esagerazione qua, ma che scherziamo? Eppure, come avete letto, cioè come avete sentito prima, gli scienziati, tra i quali appunto il nostro Enrico Galeotto, primario padovano di anestesiologia, eccetera, ha detto che il bambino vede già alla 16ª settimana, perché riconosce se la madre sta in un ambiente molto luminoso oppure in un ambiente buio. L'udito suo inizia già al 6° mese a funzionare, addirittura ode delle vibrazioni sonore che noi non riusciamo ad udire, cioè vale dire gli ultrasuoni, e chissà che cosa ascolta con gli ultrasuoni, perché sapete, poi magari non è che noi non li sentiamo gli ultrasuoni, quindi non è che possiamo sapere esattamente cosa succede negli ultrasuoni, né possiamo costruire un aggeggio che ci permette di udire gli ultrasuoni, perché quello che potremmo udire sarebbe solamente una, diciamo così, una divisione di frequenza degli ultrasuoni, no? Cioè noi potremmo costruire un divisore di frequenza e gli ultrasuoni non li potremmo sentire ridotti a suoni normali, ma evidentemente non sarebbe più la stessa cosa, no? Giusto? Quindi qui in questo articolo si parla del fatto che il bambino già all'interno del ventre della madre è perfettamente cosciente, sveglio, registra tutto, e naturalmente è incredibile pensare che possa fare delle preghiere, però vi ricordo che che in un punto di questo articolo si diceva: al momento dunque in cui nasce, il bimbo è già equipaggiato di tutto, seppur incompletamente. Quando non sa risolvere un problema, non è che non lo capisce, è solo che non ha ancora i mezzi, più spesso fisici e motori che psichici, per affrontarlo e dominarlo. Quindi vuol dire che il bambino è già psicologicamente attivo e già capisce le cose. Naturalmente possiamo immaginarci che non è che le sue labbra all'interno del ventre di sua madre pronunciano queste sillabe, no? Queste parole che io ho appena letto, no? Perché evidentemente questi sono dei pensieri, e naturalmente il pensiero non avviene a parole, non avviene con le frasi, con le parole, no? Perché magari lui non le conosce ancora, però sicuramente le impressioni sono queste, e la preghiera è pur sempre valida. Comunque Sri Kapila, l'incarnazione di Krishna, continua, e continuiamo anche noi un attimo, anche se in effetti stiamo andando un po' in là, ma è una parte particolarmente interessante. Il bambino di 9 mesi nutre questi desideri anche se si trova ancora nel ventre della madre, ma mentre egli loda così il Signore, l'aria che favorisce il parto gli spinge la testa verso il basso al fine di farlo nascere. Improvvisamente, spinto da questa aria, il bambino esce con grande difficoltà, la testa rivolta in basso, incapace di respirare e privo di memoria a causa del grande dolore. Krishna Prabhupada dice nel commento: il termine Krishrena significa con grande difficoltà. Quando il bambino esce dall'utero attraverso lo stretto orifizio, la pressione gli impedisce completamente di respirare e il dolore intenso gli fa perdere la memoria. Talvolta la sofferenza è tale che alla nascita il bambino è già morto o quasi morto. Si può quindi immaginare quali possono essere i tormenti della nascita. Il bambino deve restare per quasi 10 mesi in questa condizione intollerabile all'interno dell'utero e al termine di questo periodo ne è espulso con forza. Poi vabbè, il bambino cade allora al suolo, coperto di escrementi di sangue, si agita come un verme nato negli escrementi, dimentica la sua conoscenza superiore e si mette a piangere sotto la morsa di Maya, l'illusione. Dopo essere uscito dall'utero, il bambino è abbandonato alle cure di persone che sono incapaci di capire ciò che vuole, ma che si occupano tuttavia di lui. Non potendo rifiutare ciò che gli è dato, si trova in una situazione indesiderabile. Io, vabbè, adesso non posso leggere tutti i commenti sulla Prabhupada, ma veramente vi conviene procurarvi questa copia di questo libro, perché ci sono delle cose particolarmente... Beh, guarda, questo qui ve lo leggo perché serve. Dice, ce la prova, dice, a questo verso, nel 25esimo verso: nel ventre della madre, il bambino era nutrito dalle cure fornite dalla natura. L'atmosfera all'interno dell'utero non era affatto piacevole, ma almeno, per quanto riguarda il nutrimento, i suoi bisogni erano assicurati dalle leggi della natura. Ma una volta uscito dall'utero, egli si trova in un ambiente del tutto differente. Desidera mangiare una cosa, ma ne riceve un'altra perché nessuno lo capisce, e non può rifiutare ciò che gli viene somministrato. Talvolta piange affinché sua madre gli porga il seno, ma la baglia gli somministra un'amara medicina perché pensa che i suoi strilli siano dovuti a dolori di stomaco. Il bambino non la vuole, ma non la può rifiutare. Perciò si trova in condizioni disagiate e continua a soffrire. Questa canzone dice: è un uomo automatico. Bisogna immaginarci questo bambino che è costretto a fare le cose che gli fanno fare, e quindi deve reagire in quel modo lì, quasi come un robot. Automatic Man. Dice ancora: steso sul letto malsano, bagnato di sudore, infestato di germi, il povero bambino è incapace di grattarsi per alleviare il prurito che lo tormenta, che dire di sedersi, di alzarsi o perfino di muoversi. In questa condizione di impotenza, ogni sorta di mosconi, zanzare, cimici e altri insetti pungono la tenera pelle del bambino, proprio come i piccoli vermi mordono un verme più grosso. Privato della saggezza, il bambino piange amaramente. Così il bambino trascorre l'infanzia sottoposto a differenti tipi di sofferenza. Poi raggiunge l'adolescenza e continua a soffrire perché non può mai ottenere ciò che desidera. Avvolto dall'ignoranza, è infelice e consumato dalla collera. Qui dice: sembra come un giorno blu, un bel giorno azzurro, un bel giorno blu. cielo azzurro, eh? Ma evidentemente per il bambino appena nato si trova, non è che apprezza molto il fatto che il giorno sia blu o cielo azzurro o cose di questo genere, no? Perché come abbiamo appena letto è proprio nei guai, no? Infatti mi ricordo che mia figlia appena nata a volte, no, piangeva ripetutamente, così non si capiva assolutamente perché piangesse così tanto, no? E questo appunto mi ha fatto venire in mente, cioè allora mi faceva venire in mente questo articolo, che cioè questo articolo, questa parte dello Srimad Bhagavatam, in cui appunto si parla di questo bambino che in effetti, proprio per la sua difficoltà di poter comunicare, non riesce ad ottenere quello che lui desidera, e quindi si trova costretto a subire quello che gli altri vogliono per lui. Comunque, una cosa con cui vorrei appunto concludere questo nostro, questa nostra diciamo chiacchierata, basandoci su questo articolo e su queste letture dallo Srimad Bhagavatam, terzo canto, è che il bambino, che cos'è il bambino? Il bambino è un'anima spirituale eterna tale quale a noi, non c'è differenza fra i bambini e gli adulti, l'unica differenza è il corpo, eh? Ma la coscienza è la stessa, la coscienza è già sviluppata così come lo è negli adulti, o perlomeno senz'altro a un livello molto ma molto più elevato di quello che pensano gli scienziati al giorno d'oggi. Tant'è vero che appunto vediamo che il bambino all'interno del ventre della madre prega il Signore di liberarlo da questa atroce sofferenza e comunque di liberarlo dall'esistenza materiale. Dicevo, il bambino è un'anima spirituale eterna, il corpo però non permette a lui di esprimere completamente le sue capacità, solamente il tempo gli permetterà di sviluppare un corpo tale da poter esprimersi completamente. Un'altra cosa che mi è venuta in mente leggendo l'articolo riguarda appunto al fatto che il bambino già ascolta i suoni quando è nel ventre di sua madre. Ecco, una cosa molto importante, tutte voi donne che avete un bambino, che siete incinte, no? Che avete un bambino o una bambina nel vostro ventre, dovreste stare molto attenti al tipo di vibrazioni sonore che fate ascoltare ai vostri bambini. Noi infatti consiglieremo a tutti voi di procurarvi magari delle cassette di canzoni incise dai devoti di Krishna, un registratore, e tutto il giorno far andare questo registratore in modo da permettere a questo bambino di ascoltare delle vibrazioni sonore spirituali. Questo naturalmente porterà un grande beneficio a questa povera anima condizionata, costretta in questa situazione così drammaticamente stretta e scomoda, e vi possiamo garantire che poi vostro figlio o vostra figlia, quando usciranno, quando nasceranno, saranno già ben predisposti verso la strada che li porterà a diventare delle persone sante, delle persone veramente speciali. Si parlava prima del fatto che appunto non è nel piano della società umana di fare dei bambini santi, ma è nel piano dei devoti di fare dei bambini santi. Quindi diciamo che il fare dei santi, il mettere al mondo dei santi, inizia sin dall'istante, dalla decisione, diciamo, dei genitori di concepire un bambino, quindi sin da prima del concepimento inizia questa procedura, questo metodo per ottenere un santo o una santa. Quindi sono varie cose, per esempio appunto il Garbhadhana Samskara, questa cerimonia che va eseguita prima del concepimento per garantirci di concepire un'anima molto elevata. E poi ci sono anche varie cose che vengono fatte durante la gravidanza, tra quali appunto, come ho detto adesso, quello di far ascoltare sempre vibrazioni sonore spirituali, trascendentali. E poi dopo, naturalmente, quando il bambino nasce, tutta la sua crescita, il suo sviluppo sarà basato sulla coscienza di Krishna, fino a che poi a 5 anni andrà a scuola e lì proprio diventerà un perfetto essere umano, vale a dire un devoto di Krishna. Dicevo, non è nel piano della società umana di creare un bambino santo, delle persone sante, delle persone sagge. Hanno nel piano di creare l'uomo perfetto, no? Uomo perfetto fisicamente, intellettualmente, un genio, che vorrebbero far diventare con le provette, con la genetica, no? I bambini vorrebbero far diventare tutti dei geni, no? Gli uomini futuri, tutti geni, perfettamente robusti, forti, degli uomini quasi fatti in scatola, no? Con delle precise funzioni, senza malattie, robusti e così via, no? Però nessuno di loro pensa, ha in progetto, ha nel computer il programma per far venire fuori dei bambini saggi, santi. E noi sappiamo che è molto più importante al mondo ci siano persone sagge e sante che non persone robuste, forti, intelligenti e basta. No? Perché la conoscenza, come diceva Chanakya Pandit, un saggio di qualche migliaia di anni fa, come diceva Chanakya Pandit, la conoscenza è il più grande dei tesori, è la più grande delle ricchezze. Quindi un saggio, una persona santa, una persona, un sadhu, come si dice in hindi, in sanscrito, ecco, una persona di questo genere è veramente molto ma molto più elevata che non un uomo cosiddetto perfetto materialmente, come appunto puntano, mirano a creare i nostri scienziati di oggi. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora, come vi sentite questa mattina, o questa sera, o questo pomeriggio, o questa notte? Per noi il tempo non è importante, il tempo è solo così, un passaggio. Una convenzione. In realtà la nostra natura eterna ci porta a vedere al di là del concetto del tempo. Quindi come andiamo? Tutto bene? Spero che siete sempre stati all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, e che abbiate avuto delle situazioni fortunate, degli incontri fortunati, delle rivelazioni fortunate, interessanti soprattutto, in modo da poter così avvicinarvi di più a quella che è la base della vita umana, cioè il fatto di diventare coscienti di Krishna. Ci sono dei devoti che dicono: ma alla radio non bisognerebbe parlare troppo di Krishna. E invece, cari signori, secondo me bisogna parlare di Krishna sempre, ogni minuto, perché Krishna è Dio, la persona suprema. E di chi vogliamo parlare, se no? Del Milan o dell'Inter? Quindi bando alle ciance, come si dice, e continuiamo a dare delle indicazioni su quelli che sono le trascendentali forme, attributi, caratteristiche del Signore Supremo, perché è l'unica cosa in realtà che ci interessa a noi personalmente e che ci interessa far capire e sapere a voi, che ascoltate RKC. Naturalmente noi leggiamo delle cronache di fatti, andiamo a vedere cose che sono successe, avventure fantastiche, superuomini che hanno sfidato la natura scalando montagne incredibili, picchi veramente inaccessibili alla mente e al corpo umano. Ma in realtà tutto questo, all'interno di questi racconti, all'interno di queste cronache, così, di vita vissuta, di esperienze materiali vissute da altri uomini, noi vediamo sempre il tutto con occhio cosciente di Krishna. Quindi approfittiamo per commentare queste avventure, questi episodi, questi piccoli avvenimenti, che sono piccoli in realtà rispetto a quella che è la grande avventura che sta vivendo il Signore Supremo Shri Krishna, manifestando il grande spettacolo del mondo materiale e quello ancora più grande del mondo spirituale. E commentando, dicevo, questi avvenimenti con naturalmente così dei pezzetti che hanno a che fare appunto con il cercare di far capire meglio che cosa vuol dire Krishna, chi è Krishna, che in relazione c'è tra noi, o almeno ci dovrebbe essere tra noi e Dio. E quindi in questa maniera, dando delle finalmente, direte voi, finalmente qualcuno che ci parla di Dio, dando finalmente appunto delle informazioni su quella che è la natura trascendentale della persona suprema. sbaglio svegliarsi così, state a ascoltare. Come mi sento bene questa mattina. Vero, vero, eh? Ho riposato veramente bene. Benissimo! Questo perché ieri sera ho letto alcune pagine di un libro stupendo. Sì, un libro, devo dire, un libro speciale. Un libro che fa parte di una collana chiamata I Grandi Classici dell'India. Ricordate, eh? Che belli, mi hanno fatto proprio un bel regalo ieri, sì, sono veramente contento. Allora, dunque, dove ero rimasto? Bella, che sensazione di tranquillità, di calma, di serenità, eh? E il resto non è difficile iniziare un giorno in questa maniera. E basta appunto leggere qualche riga di questi grandi classici dell'India che sono veramente dei libri incredibili. Incredibili nel senso che veramente ognuno di voi può così procurarsene 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché la collana per il momento è solo composta di 6 volumi, e con questi 6 volumi veramente cercare e scoprire delle cose fantastiche da tutti i punti di vista, no? Nel senso scoprire che cosa è, cosa c'è dietro la manifestazione, l'intera manifestazione cosmica, la creazione del mondo materiale, la differenza che esiste tra materia e spirito. Oh. La storia trascendentale di personalità meravigliose che sono vissute migliaia e migliaia di anni fa e che con il loro esempio ci insegnano tutt'oggi a come vivere la nostra vita umana. I passatempi trascendentali del Signore Krishna quando era presente qui tra noi 5.000 anni fa. Lo yoga. Tutti i segreti dello yoga. Qual è lo yoga giusto per questa epoca che viviamo? Tutte queste domande hanno delle risposte, trovano delle risposte precise, perfette, in questa letteratura che si chiama appunto I Grandi Classici dell'India, i Veda, I Grandi Classici dell'India. State a sentire la spiegazione perfetta dei Veda, eh? Magari verrete ispirati a cercarli per farli vostri. Ci sono libri e libri, puoi leggere di tutto, gialli, sciocchi, rari, inutili o preziosi. Ma ci sono dei libri che non temono confronti, che non hanno rivali, che sono veramente il massimo, e anche di più. Ci sono libri e libri, puoi leggere di tutto. Se non hai ancora avuto la fortuna di incontrare i Veda, cercali qui, a un numero di Firenze, 055 820 161. I Veda, i grandi classici dell'India. Allora, mi raccomando, non perdete questa occasione, cercate questi Veda, questi libri meravigliosi, e poi così potrete farci tante domande, perché questi stimoleranno senz'altro la vostra curiosità, e man mano che sentirete le risposte vi convincerete che la coscienza di Krishna vale veramente la pena di essere sperimentata e vissuta. Suono. suono, il suono, il suono è quello che veramente ci accompagna ogni momento del giorno e della notte anche inconsciamente. I suoni, ci sono veramente tanti tipi, nell'etere pieno di suoni, suoni altissimi, suoni bassissimi, suoni intermedi, frequenze super acute che viaggiano nell'ordine dei mega dei gigahertz, milioni di hertz. Quindi imprendibile per i nostri limitati padiglioni auriculari. Però questi suoni, ci sono delle distinzioni da fare precise sui suoni, perché proprio ci sono dei suoni che di natura hanno una base materiale proprio, e dei suoni invece che hanno delle caratteristiche che vanno al di là del concetto della materia. Vedete voi, com'è possibile? Semplice, come dire, è scritto nei Veda che tutto quello che ha a che fare con Krishna, tutto quello che è in relazione a Dio, praticamente è uguale a Dio. Conseguentemente prende le caratteristiche di Dio e diventa, signori miei, diventa qualcosa che è veramente inconcepibile per le nostre menti. Una cosa è certa, che tutto quello che è in relazione a Dio è pieno di felicità, conoscenza ed eternità. Quindi se noi per così concludere sul discorso dei suoni, se noi proviamo gioia qualche volta a sentire dei suoni che hanno delle caratteristiche o notazioni materiali, cioè ci sono dei suoni che in effetti ci mettono di buon umore, pensate un attimo come sarà il nostro stato d'animo al sentire dei suoni trascendentali, cioè dei suoni spirituali. Vogliamo provare? Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Vita semplice, pensiero elevato. Questo era un motto di Srila Prabhupada. Talvolta nella vita di tutti i giorni diventa difficile percepire un concetto di vita semplice. Ci sono gli elementi sottili, materiali, che ci tengono impigliati a questa dimensione di voler così credere di essere in grado di organizzare, di controllare, di gestire. Il famoso falso io, l'orgoglio. L'orgoglio veramente è una brutta bestia, come si suol dire in termini volgari. Nel senso che le persone orgogliose veramente riusciranno molto difficilmente ad avvicinare la conoscenza, perché non sono preparate ad accettare niente, prendono per buono solo quello che viene dalla loro mente, dai loro pensieri, dalla loro limitata fonte di percezione. Quindi è per questo che noi diciamo sempre che la cosa più importante, specialmente per una persona che vuole iniziare così una pratica di esperienza spirituale, è quella di cercare di vincere questa dimensione dell'orgoglio, soprattutto rispetto agli altri, mettersi nella posizione che ci compete, cioè quella di vederci sempre come i peggiori della situazione, i più bassi. Con questo tipo di ottica noi continueremo ad esaltare sempre gli altri e quindi diventeremo umili. E l'umiltà è proprio quella caratteristica fondamentale che fa di un uomo un grande uomo. Certo, può sembrare strano, può sembrare anacronistico che attraverso una pratica di umiltà una persona possa diventare grande. Ma in realtà è proprio così. La relazione con noi stessi è importante, ma la relazione che abbiamo con gli altri è ancora più importante. Perché dobbiamo capire, dobbiamo avere rispetto degli altri. E grazie a questo rispetto che noi svilupperemo per gli altri, potremo naturalmente svilupparlo anche per noi stessi, diventando molto esigenti con noi stessi, in modo da cercare di ottenere da noi stessi il massimo dell'umiltà. Il metodo migliore è quello di cantare il mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è senz'altro il metodo migliore, indicato, suggerito, consigliato da Dio stesso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, 500 anni fa, si presentò a noi nel Bengala dell'est, anzi dell'ovest, e lui insegnò a cantare i santi nomi di Dio, il Maha Mantra, il grande mantra, il mantra della liberazione, il canto della liberazione. Molto semplice, lo si può cantare anche senza musica, mentalmente. È meglio però se lo si canta in maniera da poter mettere in funzione gli organi auditivi, in modo da ascoltare questo suono che noi produciamo. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, questo suono, proprio perché il contenuto del Maha Mantra non sono altro che attributi, nomi, che riguardano il Signore Supremo Sri Krishna, allora il suono prodotto da questo mantra è un suono spirituale, trascendentale. E come il suono che abbiamo ascoltato prima, questo ci aiuta a ripulire la nostra coscienza, a farla risvegliare. Jiv Jago, svegliatevi, grandi anime addormentate. Questa è una bellissima canzone di Bhaktivinoda Thakur, un grande poeta Vaishnava. Come si fa a cantare il mantra? Molto, molto, molto semplice, molto semplice. Si può cantare anche da soli, eh? Sentite come? Vi faccio sentire io un esempio piccolo, così, da solo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oppure in compagnia, Hare Krishna, con una piccola melodia. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oppure con grande grinta. Pure con grande devozione. Tanti modi di esprimere il proprio rispetto verso la persona suprema, verso Dio, verso colui su cui così non pesa perché lui non ha questi problemi, ma in realtà è il perno di tutta la creazione, di tutto quello che ci circonda. Quindi, se non altro, è un rispetto per la suprema intelligenza che ha dimostrato nel mettere insieme questo fantastico scenario, questo spettacolo che si rinnova puntualmente ogni giorno, che è appunto la manifestazione cosmica materiale. Thank you. Bene, con gli applausi per Krishna Premadas. Krishna Premadas che veramente ha cantato le glorie del suono spirituale, del Mahamantra Hare Krishna. Quando si parla del Mahamantra Hare Krishna, veramente si dovrebbero stendere dei tappeti rossi mentali davanti al suono di queste parole. Parlare di cose spirituali, e che cosa c'è di più spirituale in questa era di Kali se non il Mahamantra Hare Krishna, il grande mantra della liberazione. È un'attività che può essere definita l'attività, con la A maiuscola, ancora applausi. L'attività con la A maiuscola da compiere per noi che siamo esseri umani, grazie a Dio abbiamo adesso una forma umana, abbiamo un'intelligenza. Un'intelligenza da mettere al servizio di Krishna. Il grande mantra della liberazione, dicevamo, ma liberazione da cosa? Liberazione dall'illusione. Non volete essere svegliati? Io penso che tutti sono contenti di essere svegliati se stanno sognando, e magari stanno sognando un brutto sogno, ma sono certa che anche se si tratta di cose belle vorreste essere svegliati. In fondo, che senso ha sognare cose belle, piacevoli, visto che è un sogno? Non è vero, non è la realtà. Quando ci si sveglia non si ha più niente. E questa vita è esattamente identica ai sogni. Se stiamo vivendo cose brutte, allora perché non vi svegliate? Perché non prendete, non riprendete, per meglio dire, la vostra coscienza di Krishna? Se state sognando cose belle, beh, allora se state sognando cose belle, che senso ha, eh? È meglio svegliarsi al più presto, dal momento che anche queste sono solo un sogno. Quando la morte arriva, non ci possiamo portare dietro niente, assolutamente niente. Quando la morte arriva, siamo costretti a svegliarci, anche se per pochi istanti magari. Tutti quanti possiamo vedere quanto sia illusione tutta questa corsa per godere noi. Allora, cosa fare? Dobbiamo far piacere a Krishna, far godere Krishna, Dio, la persona suprema, e allora inevitabilmente saremo felici e godremo noi nella maniera più grande, nella maniera più completa, nella maniera più eterna. E con questo io vi saluto, un Hare Krishna, e a risentirci al prossimo Fuori dal Tempo. Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto!